E infatti c'era un errore, signore e signori, questa è San e come al solito per rispettare la tradizione della nostra cara co-conduttrice che oggi non c'è, le campane di Piazza Vittorio suonano, non so se le sentite, probabilmente sì. E quindi comincia salute e felicità. Siete pronti? Pronti? Bonsoir. Bonsoir. Vai, vai Gabbo, puoi parlare. Puoi anche accendere, prova a accendere il microfono. Spento, ok, stavo... è abituatissimo. Buon ascolto a tutte e a tutti. C'è della radiofonia in... Sì, chiaro. lo puoi lasciare sempre acceso, 21.07. E allora abbiamo qui questi tre monti, tre monti ci sarai a Scemo. Che si dice? Come va? A che puntata siamo? Un po' stanco. A che puntata siamo, signore e signori? La settima, l'ottava? Nona. A livello di stanchezza comunque quelle so, eh. Invitati alla tredicesima puntata di Salute e Felicità, 13 di 16, quindi dalla prossima sarà la terza, quart'ultima. Doppia, detta... Salute e Felicità. Capito? Vabbè, siete arrivati... 13 di 16, te... vi siete dati questo limite così... Certo, bello, noi abbiamo... Certo, noi ci diamo dei limiti, mica come voi, giovanotti, che pensate di farne 790 di puntate e... finiranno la terza. Il fatto dico che noi non diremo mai quando finirà. Finirà e basta. Ah, un giorno la gente così botta secca, sì, e qui e quindi mancargli di più semplicemente. Ah, è una strategia di marketing, per creare un senso di abbandono negli ascoltatori. Ah, così poi ti riascolteranno sicuramente. È una strategia che può funzionare. Come vi è venuto in mente Tre menti sopra il clero? Che cosa fate? Sponsorizzate, fate uno spottino mentre passa un trattore sotto lo studio. Siete all'Iglu di Piazza Vittorio, vi ricordo. Ne vuoi parlare tu? Ecco, già. Il perché è nato, sì, in comune, dai, facciamo, allora, io faccio il labiale e tu... No, dunque, Tre menti sopra il clero nasce dall'intenzione di tre... Prova a avvicinare il microfono più... Stupidi di cazzeggiare. Ya, yeah, sì, molto meglio. No, nasce dalla voglia... Nasce dal vuoto pneumatico della nostra esistenza, direi. Ah, bene. Sì, da questo e anche da... anche altro ancora. Tanto altro ancora, fondamentalmente dalla voglia anche di spassarsi un po'. Oh yeah. Non farlo condividendo questo spasso via web. Via web, magari via qualcuno streaming. Magari a qualcuno gli via bene ci ascolta. Ogni tanto ci segue. Vedo. Abbiamo la nostra platea di affezionati, che sono tre, chiaramente. Mia madre, sì. La mia. La nonna, e la Peppina e Gigizu, che è nella stanza accanto, d'altronde. Esatto. Quindi diciamo non può farne a meno. Capita anche spesso nella stessa stanza. Quindi... Ah, chiaramente. Una dedica speciale da Tre menti sopra il clero. Va Gigizu, che vi dà anche una mano tecnica. Se soprattutto una mano tecnica. Anche due mani tecniche. E il nome? Il nome è nato da un brainstorming. Ah, vi siete proprio impegnati. Ci siamo presi a capocciate, in questo senso, brainstorming. Abbiamo iniziato a prenderci a capocciate e da lì qualcosa deve uscire, insomma. Certamente. Sangue soprattutto. Spesso sangue. Dipende, se colpisci sempre sullo stesso punto, esatto, dell'altra, sì, volta, poi alla fine... Chiaro. A merda, chiaramente già dalla chat. Vi ricordiamo tutti ascoltatori e ascoltatrici che potete entrare in chat venendo sul sito transizionedifase.org e cliccando su chat. È facilissimo entrare in chat, vero? Assolutamente sì. È notorio che la gente fa grosse difficoltà, però semplicemente perché non è abituata a leggere quello che ti dice. Cioè, vuoi bloccare, se tu vuoi entrare in una chat e il computer ti dice vuoi bloccare i contenuti, se tu gli dici di sì, diciamo che non con no. Cui nella media si entra in chat. Si entra in chat, ma di solito grosse difficoltà. E quindi è una trasmissione in cui parlate di? Ma un po' tutto. E un po' nel niente. Senso è, sì, esatto, nel senso si approfondiscono determinate tematiche che nel corso della settimana balzano agli onori delle cronache più di altre. Tipo c'è anche il una pallone? Certa... No, calcio fortunatamente no. Ultras sì. L'ultima puntata per esempio abbiamo approfondito un po' l'argomento Ultras che... chi per esempio Gigizu che mi ascolta potrebbe dare un giudizio poi, che poi effettivamente è un argomento di cui non si parla mai, quindi sì, perché ci sono stati fatti di Genova, non so se ricordate Genova, cioè, no? Gli ultras hanno interrotto la Carlo partita Giuliani. Costretti i giocatori, no. Ah, no. Ah, una Genova più recente. Ah, un ok, po' più recente. No, sono rimasto Genova lì. 2012 no? Ok, comunque sì, c'è molto cazzeggio, quindi come dicevo prima molta voglia di divertirsi, però anche abbastanza approfondimento con leggero, leggeress. Non siamo la nuova Radio Onda Rossa, no, per carità. No, no, il senso, guarda, se c'è una linea guida, no, c'è stato un momento di gelo, senso, proprio perché esistono anche loro, stima. Sì, assolutamente, proprio perché esistono loro pensiamo che effettivamente se si deve parlare di qualcosa se ne deve parlare con molta più tranquillità, molta più ironia, anche certo. Se poi effettivamente che ne pensi dello conto? Spread? Io niente, potrei far parlare Sara Tommasi in questo momento. Spread e signoraggio, sì, sono i suoi argomenti di solito. Sì? Sì. Articolo anche 18? Articolo 18, l'articolo 18, guarda, abbiamo fatto una puntata, la puntata 0, quella che non ha potuto sentire nessuno. Bravo, perché come funziona la transizione di fase? Transizione di fase funziona che potete proporre le vostre idee proponendo appunto una puntata 0. Ah. che poi normalmente è quella che viene meglio di tutte quelle in diretta o che vengono poi streamate. E niente, loro sono così disponibili da sentirla. Loro. O far finta ci di sentirla. Ci dai dell'oro. Lor signori. Lor signori. Del boy. Lor signori sono così gentili, va bene. E quindi vi mandiamo un po' di musica come al solito per non stressarvi troppo. Ma, no, uffa, volevo mettere questo brano invece non è partito. Eccolo qua. Se vuoi lo canto io. Vai. A cappella. Però c'è scritto track 2, non... Okay. Cioè. Loro sono Amadou e Mariam. E il brano, se non lo conoscete, è stato fatto anche un remix di recente. Secondo me lo conoscete. Conoscevatelo. su Salute e Felicità Channel. Allora, abbiamo appena... Cioè, chiaramente la cosa divertente è spizzarsi i vari tweet, no? Mentre tu fai la trasmissione, allora vai e in maniera molto gioviale provi a spammarti sui canali degli altri dove la gente chiacchiera, ma vedi, cercando si è trovata questa informazione che il nostro caro Romualdo adesso ci spiega. Abbiamo letto estremo centro ma e abbiamo pensato che in realtà che... C'è una struttura... Secondo me lo devi accendere sempre il microfono. Vero? Giuro che è acceso. Ah, allora parla lì dove sei. Bisogna essere proprio vicini. Sì, bisogna un microfono. Sì, c'è una struttura qui a Roma che ama Casa Pau, sì, sicuramente. Una struttura che ama definirsi di estremo centro alto. Provate a indovinare chi è, chi sono questi simpaticoni. Vediamo se in chat qualcuno riesce a interagire con noi. Vabbè, ve lo dico io, vi rovino per Casa Pound. Sicuramente una gara goliardica non conforme. Che dice? Ma che sta facendo in questo periodo Casa Pau? A parte prenderci le sveglie sulla set. Se non ci ami, se non ci ami puoi anche non votarci. Sì, sì. Ma vabbè, anche prima potevi in cura, sì, cioè, non... farei proprio un manifesto apposta. Noi non ti votavamo neanche prima, no, diciamo. Tra l'altro, cioè, non ho neanche odio da sprecare io, semplicemente non ti cago. Ma il candidato schifo chi è? Forse. Palaschi, no, è Iannone, non è Palacchi, è Iannone. A Roma non ci facciamo manca mica niente. Ma è il signor Orsino. Pare sia proprio Iannone. Per la serie mi siedo e ho fatto, no? Abbiamo svoltato. Loro hanno già svoltato in realtà abbastanza. Perché? Perché il palazzo che loro hanno fatto finta di occupare, in realtà senza avere mai occupato un granché, senza che nessuno ponesse resistenza a questa occupazione, era aperto, sono entrati, se lo sono sistemati con i soldi di diversi partiti. Ma nell'ultimo anno gliel'hanno comprato. Destroidi, esatto, appunto, poi il palazzo è stato comprato. Sì. Quasi 12 milioni di euro, quindi ecco. Adesso si ritrovano proprietari di un palazzo e di un locale, perché questa è una cosa che non è girata troppo. Ma quella che prima era un'occupazione, che credo si chiamasse Area 19, un'ex fermata della metro, sì. che alcuni valorosi compagni hanno violato e hanno rubato qualunque striscione presente lì dentro. Noi li stimiamo un sacco. Giusto per appenderlo al contrario. Ecco, esatto. E farsi delle belle foto e pubblicarle. Un bel falò dopo. E lì sì che Facebook ha senso per pubblicare le foto degli striscioni cippali, certo. Una parte di quell'occupazione è stata chiusa ed è stata diventata un locale, una dance floor, come amano definirla loro. Il bivacco. Il bivacco. Sperato dietro l'associazione di benefit. Cioè ah, tutto è quella Roma Nord. Sì, e fanno un botto di soldi, si pagano tipo 20 euro per entrare, c'è cioè addirittura il privé, la piscina, cioè proprio un locale. Ah, è chic. Ma loro sono fighi. È chic, se si sa. No, no, ma poi. Però c'ha pure. C'è l'angolo tipo il punto informazioni in cui ogni tanto ci compare un volantino di Casa Pound. È un pestaggio. Una cinghia mattanza. Mamma mia, che gentaccia. Vabbè, siamo vicini, diciamo, a questa simpatica organizzazione, noi diciamo. No. Sì. Ah, vicini in questo senso. Sì, siamo vicini in linea d'aria. Quindi vi invitiamo tutti e tutte alle ore 23:30 alla fine di Salute e Felicità, venite per un presidio. Sotto, per un presidio in solidarietà a l'Iglu di Piazza Vittorio, dove risiede la stessa Salute e Felicità, per le mazzate, ma tanto non ci ascolterà, ci ascolteranno Casa Pound. Ah. No, al massimo la Digos. Loro, sì. Ma non sono capaci di ascoltare. Per loro streamano anche, hanno sì? Una web radio. Che Anonymous si è buttato giù un po' di volte. Settimane, ma per settimane non sono riusciti a tirarla sì, su. Perché poi sono competentissimi a livello tecnico loro. Chiaro. Sono in 15 per streamare una trasmissione. Una che ce ne vuole coraggio. Sì, sì. Vabbè, non diciamo il nome di questa radio, no, chiaramente. Già gli abbiamo fatto troppa pubblicità. Bagnetta nera, mi pare. Radio Pognella nera. Petta nera dalla Casilina. Esatto, sì. Aspetta, spera che passa il tram. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Like he italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Siamo pronti? Se siete pronti anche siamo voi, pronti. Chi è che smanetta con io, ecco, ecco, bravo. E arriva il momento di farvi ascoltare. Io in realtà quel... Ah! Che stai facendo con quel capo? Stai buono. Questi qua non sono abituati. Cioè, loro sono... Io l'avevo preparata mica come noi. Non siamo abituati a questo. Cioè, voi fate radiofonia con gli strumenti per fare radiofonia. Noi lo facciamo con gli strumenti per fare la carbonara. Noi abbiamo il microfono fatto con un bicchiere di plastica e un filo di nylon. No, da una stanza all'altra. Sì, esatto. Uno ascolta. Ma come va lo streaming? No, bene. In cucina si sente bene col bicchiere al muro. La regia è in bagno. In bagno, perché così non fischia dei microfoni, tutte quelle cose lì, certamente. E invece qui da Ligure di Piazza Vittorio vi volevamo parlare di questo argomento. Diciamo che in questa puntata di questa trasmissione tendenzialmente queer l'argomento calza a pennello, perché si parla un po' di prostituzione, un po' di burlesque, un po' di soldi che girano, un po' di persone sfruttate, un po' di papponi, un po' di roba. È un argomento un po' inflazionato può essere, sì, che volessi dire questo, ma in realtà è anche, cioè, lo sapevamo tutti che funzionava così, no? Però ascoltarlo fa un po' specie, quindi come al solito io, quando noi di Salute e Felicità, quando passiamo dei brani, amiamo mettere una musichetta di sottofondo, che era quella che avete sentito prima, ma facciamo finta di niente. Diciamo che non è allora, la novità della puntata. Non è una novità della puntata, molto bene. Eccoci qua. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao Cucciolo, scusa, ti ho disturbato. No, avevo in corso degli appuntamenti importanti, adesso li ho finiti. Li ho finiti, sono a posto. Ah, ok. Dimmi tutto, amo. No, sei tu che mi hai chiamato. Ah sì, e niente, perché io ero qua con la Diana, Maristel e Aida. E ti volevamo dire se anche loro possono venire a trovarti oggi. Stasera cena? Sì, stasera. Alle 9:30? Alle 9:30, sì. Aspetta, fatti un secondo che ti vuole parlare la Mari, che fa, aspetta. Ehi. Ciao tesoro. Ti hanno lasciato il messaggio di ieri che non sono potuta venire? Sì, sì, infatti. Anche oggi? Sì, sì, mi hanno detto. Ok. Mi hanno detto che non ti importava nulla di me, che preferivi tutti gli altri. Non è vero, no, sì, sì, sì. Poi ti spiego cosa che... No, me l'hanno detto. Dice, guarda, ha detto la signorina mia, Marista, dice che non gliene frega un cazzo di lei. Dai, e che lei ha appuntamenti molto più importanti, interessanti e sessualmente molto più eccitanti. Amo. Ascoltami, che quindi c'è anche la Ida. Benissimo, sì. Non abbiamo niente. Sì, l'unica cosa che c'è da dire alla Ida è che non abbiamo niente di speciale stasera. Perché siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie. Dai. Sì. E io sono stremato, capito? Davvero? Sì. Quindi. E quindi non è che. Stasera facciamo una cena tranquilla, insomma, sì, con la musica, ma tranquilla, perché io non sarò protagonista. Dai, va bene. Ma quindi ci sei tu, no? Sì. Io sì, ci sono. Ah già, va bene. Allora metto altri 4 posti a tavola, va bene? Sì, amore, va bene. Ciao tesoro. 9:30, 10, eh? Ok, perfetto. Ciao mangiare. Tesoro, ciao. Senti! Dimmi. Senti. No, no, aspetta un attimo. C'è anche Elena che ha telefonato. Sì, ma non lo so dove è lei. Cosa ti ha detto? No, che voleva venire. Allora dile di sì, chiamala. Chiamo io, ciao. Va bene. Ciao, amore. Ciao, ciao. Va bene. Pronto? Ciao amore. Amo. Amo. Amo. Io voglio andare a vomitare. Ciao amore. Veramente. Ciao amore. Come stai? Hai saputo... Sì, sono diverse cose orribili comunque ascoltando queste... Hai saputo la notizia? L'hai letta la notizia? Che... Ma che roba è? C'è il presidente del consiglio. Era, fortunatamente. Appiccio su microfono tu. Parliamone. Capitate in questa puntata un po' sconsolata. Io lo so che voi siete dei burloni, però secondo me parliamone. In realtà anche noi sappiamo essere seri. Non ci intristiamo facile. Capito? Cioè, la questione è che ieri notte hanno fatto le pazzie. Quindi vorrei dire bea di loro, perché mi piacerebbe anche dire bea di loro, ma vabbè, ognuno ha una sua concezione della parola pazzia, diciamo. Certamente, magari avranno giocato a carte alla fine, no? Dici canasta, o a catasta, soprattutto a catasta tu, che a catasta pure io. Ma dicono che è molto forte a bocce. Senza anche backgammon. Backgammon. Backgammon. Ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, quanti anni ha il nostro ex presidente del Consiglio? 77, la prossima... La prossima legislatura. Ce ne avrà sempre. Lui ormai compie gli anni a legislatura. Sono 76, se no resta 76 fisso. Fisso, cioè, ce lo giochiamo. Sì. Ma cioè, non muore mai. No, la cosa che ci ha salvato è che non gliela fa più. Mai. Non gliela fa. Non gli ha retto più. Però caccia i soldi uguale, chiaramente. Vale, cioè. Ma chissà, ora che non è più sotto i riflettori, si starà spaccando di bunga boom. Ma nel senso, di che si spacca? Cioè, voglio dire, mio padre ne ha 62. E parliamone. Cioè, non credo che reggerebbe un bunga bunga. Perché questa. Io credo che tuo padre. Faccia tanti bunga bunga e tu non lo sai probabilmente. Ho dato tutta l'intenzione del mondo di fare mix di, non lo so, coca e Viagra per scoparsi una 17enne, insomma. Ma dici che tuo padre. Ma quindi cioè stiamo avvalorando la tesi che è un malato d'ego, quindi al di là magari del sesso in sé, comunque si fa chiamare tesoro da una persona che non conosce. Ma gli facevano i massaggi, cioè secondo me gli facevano tipo i massaggi, le pippettine. Non me fate venire queste immagini, che stanotte indormo sono sensibile. Tu per 47.000 euro lo faresti, Gabbo, dici la verità. Ma io guarda, non sono contrario assolutamente alla prostituzione, è l'ipocrisia del fatto che il presidente del consiglio ci abbia questo stile di vita, che per carità io neanche condanno in sé per sé, ma è l'ipocrisia del fatto che poi comunque lui in Parlamento quante volte ha condannato sia questo modo di vivere, sia il... insomma, cioè, vabbè, c'è un'ipocrisia di fondo che non riesco proprio a comprendere. Diciamo che è stato proprio il suo governo. Sarebbe stato progressivo. Esatto. Mi riferivo a quella, ma non ne sapevo... Non ne sapevi molto, quindi aspettavi. Aspetta questo tuo microfono. Occhio, ci devi stare... No, la questione è... Perché poi? Perché allora, se sei... Mele, come si chiama? Mele, quello dell'UDC beccato con la trans a pippare sotto casa e poi sotto casa. Però vabbè, uno dell'UDC mi è beccato a pippare in macchina con la trans. Sai che so più di uno, quindi non... E va bene, ed è sì, uno. Sì, ma sono tanti, anche Gasparri è stato beccato con una trans, anche Sirkan, insomma. Per quale motivo poi devi venire a rompere i coglioni alle trans, alla gente che pippa, alla gente che fa i festini, alla gente che si... Perché? Cioè... Per il consenso. Che la gente devota. Ma in realtà, cioè, è evidente che questa persona, il fatto che questa persona lo fa, cioè, come dire, è sempre il solito discorso. Ci sono tante trans in giro, sulla Togliatti ad esempio, tante prostitute, non trans, prostitute e basta, sulla Togliatti, e vuol dire che c'è tanta gente che va con le persone transessuali. Su questo mi sembra un assioma e non c'è dubbio. Allora, tutto quello potrebbe essere un elettorato che se tu parlassi di prostituzione in maniera decente, e facessi capire qual è la questione, probabilmente... ma attenzione, in tutto ciò... Allora abbrevirisco in questo momento. Dici? Sì, perché parlare di persone, individui, in termini di elettorato mi fa cagare. In termini di diritti già tutto un altro. No, non c'è dubbio, però poi se il consenso è la tua logica... Anche solo pensare che dovresti trattare certe tematiche in modo da compiacere certe persone per avere poi il voto, non mi va. Non c'è dubbio. Cioè, non è così che si dovrebbe fare politica, secondo me. No, va bene. Purtroppo bene. Questo accade, ma comunque va detto che nessuno ragiona come dici tu. O comunque sono delle... No, questa è una logica imperante che magari non c'è appunto sulle persone che stanno in strada, però c'è appunto su magari le 25 milioni di famiglie che sono presenti in Italia. Cioè, capisci qual è la provocazione? Che comunque... Ma tanto in cabina elettorale non te vede nessuno che hai votato, dai. Cioè, no, però se c'è un partito che te parla di prostituzione, se ci fosse un partito che ti parla di prostituzione in una maniera che alla fine a te te conviene, qual è il meccanismo che ti spinge a votare quello che la prostituzione te la vieta e poi a farne uso? Perché poi pure questa è una... cioè, l'inconsapevolezza generale di questo paese ti spinge, cioè proprio l'essere all'occhi assurdi ti spinge a pippare e a votare il governo che le droghe non te le fa usare, perché effettivamente quanta gente pippare, cioè quanta gente fa uso di sostanze in questo paese? La stragrande maggioranza, senza alcun dubbio, dalla cannabis al tabacco, all'alcol, a tutto. E perché mai il governo, il partito che era al governo e che tuttora è al governo, anche se questo non ce lo siamo votati, è quello che poi in realtà queste sostanze te le vieta? Cioè, qual è la logica, no? È una faccio logica uso di sostanze. Sì, ma sì, tanto no, cioè, possiamo anche fare finta. Sì, possiamo anche smetterla di far finta che non andiamo, che non ci piace la transessuale. Perché ma è una mentalità talmente profonda che ci vergogniamo anche con noi stessi, il problema è quello. Ma ti piace il cazzo, è tranquilla, anche per me, per te, per Gianni ha voglia, il problema è che non lo è per quelle persone che sono state educate, purtroppo facciamo ancora i conti con un'educazione del genere, un'educazione anche molto religiosa, per cui effettivamente proprio noi stessi, nel cioè, senso noi di siamo colpa, i primi no? con noi stessi, capito? Nel senso di colpa, esatto, il senso di colpa verso noi stessi, è allucinante, questa cosa mi inquieta molto più, perché poi effettivamente Berlusconi è stato il prodotto di quello. Anche ancora un in paese parte. Profondamente cattolico, comunque estremamente. Questo ha creato dei danni che non ci leveremo mai più. Sì. Poi parleremo anche magari del concordato, no? dell'extraterritoriale, del territoriale, di cui parliamo. Però diciamo, non sono avvezzo a sponsorizzare quella che è una situazione che fa parte dei radicali, o meglio, un'ex associazione che faceva parte dei radicali, adesso è una specie di confederazione, però questa associazione LGBT è, probabilmente si chiama Certi Diritti, e ha fatto qualche settimana fa un intervento molto interessante, una giornata sabato scorso, una giornata molto interessante in cui si parlava di legalizzazione della prostituzione. È intervenuta questa puttana, perché tale si definisce, quindi ok, e non usiamo termini, assolutamente non facciamo no. giri di parole, non facciamo giri di parole, senza alcun dubbio che ha fatto questo intervento molto interessante, secondo me era il caso di mandarlo. E allora il suo nome è Tenera Valse, si chiama, e allora un buon ascolto a tutte e a tutti. Sono una puttana perché mi piace. Sono una puttana perché ho amato senza riserve. Sono una puttana perché ho disobbedito senza riserve. Sono una puttana perché non confondo più sesso, sex work e amore. Dico sono una puttana e non faccio una puttana, perché quando lo faccio lo sono anche intimamente. Sono una puttana perché il lavoro che avevo prima non sapevo più farlo. Sono una puttana per capire chi mi vuole veramente bene e mi accetta, anche se sono una puttana. Sono una puttana perché il mio lavoro mi ha impoverito. Sono una puttana perché gli uomini che rispondono agli annunci erotici te la chiedono gratis, senza dire né buongiorno né buonasera, e dando per scontato che sei una puttana gratuita. Sono una puttana perché gli uomini vogliono fare con me cose che non hanno il coraggio di chiedere alle mogli e alle fidanzate, incluso il mio compagno. Sono una puttana perché mio marito confonde la donna per bene che ha sposato con la propria madre e qualche volta anche con sua figlia. Sono una puttana perché il sesso ognuno lo fa come vuole, anche a pagamento se ritiene opportuno. Sono una puttana perché qualcuno mi ha detto ti vesti come una puttana, ti trucchi come una puttana, fai sesso come una puttana. Sono una puttana per sapere cosa provano in strada le donne sfruttate, mie sorelle. Sono una puttana perché il lavoro a 4 euro l'ora è schiavitù per uomini e donne. Sono una puttana perché ho bisogno di leggere e avere tanti libri. Sono una puttana perché il lavoro intellettuale e il lavoro artistico sono sottopagati, sfruttati e offesi. Sono una puttana perché l'Italia ha rinunciato ai suoi artisti. Sono una puttana perché l'Italia ha affamato i suoi artisti. Sono una puttana perché le mie amichette studentesse universitarie, per pagarsi una camera a Tugurio in affitto a Roma, devono fare le puttane. I maschi, per lo stesso motivo, spacciano o battono anche loro. Sono una puttana perché certe volte, quando ho fatto l'amore, mi sono sentita stuprata. Sono una puttana perché la famiglia, in questo momento storico, è il luogo più violento che c'è. Sono una puttana per tutte le donne che sono morte a causa del loro essere donne, madri, lavoratrici, figlie incomprese, mogli sole, puttane sole, amanti nascoste, fidanzate uccise perché un uomo insicuro le perseguitava. Sono una puttana perché il sesso a pagamento è un lavoro e ha dignità. Sono una puttana perché la puttana è un genere sessuale diverso e un piacere diverso per tutti coloro che lo praticano. Sono una puttana perché il sesso è sacro. E sacro a questo mondo vuol dire monetizzato, che tutti sappiano cos'è il loro senso del sacro. Sono una puttana perché ogni gesto è puro, incluso il più riprovevole, se lo fai con l'istinto di un animale e non di un uomo. Sono una puttana perché i miei alunni consideravano Pasolini un frocio marchettaro. Sono una puttana perché sono femmina e femminista. Sono una puttana perché per una donna fare sesso libero in molti posti è ancora... Sono una puttana, una strega, una mistica, una madre, una santa, perché posso contenere il mondo tenendomi in equilibrio. Sono una puttana perché hanno ucciso i pazzi dandole della puttana. Sono una puttana perché non è solo il mestiere delle donne, ma da che mondo è morto degli uomini. Sono una puttana perché il mio cuore è puro e non ha doppio fondo. Sono una puttana perché rigetto il potere. Sono una puttana perché voglio riprendermi il desiderio di essere donna come dico io e non come dice un uomo. Sono una puttana perché questo è un mestiere inventato da un uomo per dividere le donne in belle e brutte, buone e cattive, e io me lo riprendo. Sono una puttana perché voglio stabilire il prezzo che gli uomini mi hanno dato e mi hanno tolto. Sono una puttana perché questo è un lavoro nobile e antico, rovinato dalla politica, come dice Pia Covre. Sono una puttana perché tutte le donne per bene e per male sono sorelle. Sono una puttana perché una moglie per bene può essere più in vendita di una puttana. Sono una puttana perché non voglio la protezione di un uomo. Sono una puttana perché questa parola si usa a proposito. Sono una puttana perché voglio che noi donne riprendiamo a vederci e a ridere delle nostre imperfezioni fisiche e della nostra vecchiaia. Sono una puttana contro una società che trasforma le nostre bambine, le nostre figlie in tutto il mondo in puttane. Sono una puttana perché gli uomini non sanno gestire come uomini la propria sessualità. Sono una puttana perché la civiltà di un paese si misura da come tratta le proprie donne. Sono una puttana perché amo la democrazia e odio la dittatura della maggioranza. Sono una puttana perché da un uomo di potere Non ho mai accettato niente, tranne il mio cachet e da mangiare da mio padre. Sono una puttana perché finalmente mi amo e mi accudisco come merito. Sono una puttana perché ho bisogno di una stanza tutta per me. Sono una puttana perché voglio capire che c'è di tanto strano in questo mestiere. Sono una puttana perché le donne devono stare tutte insieme, puttane e donne per bene. Sono una puttana perché ancora oggi una donna non prende valore di per sé, ma ancora, come secoli addietro, per il matrimonio che ha fatto, al massimo per gli studi che ha fatto o i figli che ha avuto. Sono una puttana perché voglio sapere perché le donne hanno paura di essere definite puttane. Sono una puttana per sapere perché questa società ingiuria le puttane, le occulta, le biasima, le disprezza, ma dietro le porte delle puttane c'è sempre la fila. Sono una puttana colta, perché la gente dice che se fai la puttana è perché non hai altre possibilità. Sono una puttana perché vorrei che tutte le donne dicessero: anch'io sono una puttana come te, e non mi vergogno di dirlo, perché anch'io sono una puttana, sono tenera valse. Grazie. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you can make it. Yeah, now you're really making it. Hey, so glad you can make it. Yeah, Ed eccoci tornati in voce, perché è chiaro che a seguito di quello che abbiamo ascoltato prima, cioè ci abbiamo un breve resoconto. Amo? Pronto? Pronto? Teso? Come stai, teso? Amo? Al netto di quel discorso e al netto di Tenera Valse, che diciamo in quella giornata di certi diritti ci ha parlato di che cos'è la prostituzione, di come una puttana vive la propria vita di puttana, è necessario, noi chiaramente un po' già ce le siamo sviscerate, quindi è un po' complicato fare due volte gli stessi discorsi, però parliamo, ci dice delle cose sostanzialmente, no, questa tipa, tipo? Ma la prima che ha sottolineato e che mi ha colpito parecchio è quella che, tra l'altro, la prima che ha colpito tutti e tre, credo, e cioè sono una puttana perché a 4 euro l'ora sono, 4 euro l'ora sono sfruttata, quindi tanto va, cioè chi sta peggio? Chiaro. Qual è la cosa? Guardati più, in faccia. Capito? Non prenderti in giro, quantomeno, uh-huh. Perché è molto peggio lo sfruttamento becero di chi magari ti chiude in un gabbiotto di un metro e mezzo e ti paga 4 euro l'ora per fare 8 ore di telefonate continuate, piuttosto che, cioè, autodeterminazione fondamentalmente, uh-huh. Cioè io decido di, perché appunto usare la questione non corpo. È monetaria, non è solo monetaria, cioè di, no, quanto in 4, però di quanto io faccio questo lavoro redditizio e mi piace, te fai questo lavoro del merda e ti piace manco, no? Perché? Quindi qui subentra la domanda, perché okay. Sei stato educato evidentemente in un certo modo. Mm-hmm. E la tua educazione nasce da determinate idee molto diffuse, idee deviate, malate, folli, molto diffuse nella nostra società e che nascono dal parrocchiano di turno, per esempio. Mm-hmm. Cioè, questa è la mia idea. A me mi ha colpito moltissimo il coraggio di riprendersi se stessa, di riprendersi un termine in un certo punto del discorso, o meglio in tutto il discorso, in ogni incipit di frase, in ogni sono una puttana, lei riprendeva una parte di sé, uh-huh. Soprattutto quando poi effettivamente fai conti con quanto questo termine è vessato, nascosto, ma poi di fatto dietro la porta c'è la fila. Quanto è anche mal utilizzato questo termine, uh-huh. Che col tempo è diventato, come dicevamo prima, è diventato offensivo, ma in realtà è un rapporto democratico quello con una prostituta, è un rapporto chiaro che ha un inizio, anche quanto di più sincero ci possa essere, se uno chiaramente. Ed è un rapporto anche di chi, sì, chiaramente si ha il termine, chiaramente sì, però no, è un rapporto inteso come un racconto di chi in realtà, come dire, però, cioè una cosa che prima non ho detto, perché chiaramente quando uno è in pausa e vi manda ad ascoltare della musica, chiaramente uno sviscera un po' di cose. Una cosa me la sono tenuta per me, perché è un aspetto secondo me saliente, quindi su questo anche volevo far riflettere e vedere un po'. Però quello che abbiamo avuto modo di ascoltare appunto è il racconto di una donna bianca che ha diritto di cittadinanza nel paese in cui vive, no? E che ha l'ha avuto più o meno la possibilità di scegliere anche un po', no, a un certo punto della sua vita, di fare questo mestiere, perché, no? E quindi sono una puttana perché, sono una puttana perché, sono una puttana perché. Tutt'altro discorso, probabilmente bisogna, per chi magari non ha potuto scegliere è stato differente, bisogna sviscerarlo, e quindi si apre un altro discorso, no? Per chi in realtà lo fa per tante o altre motivazioni, no? E quindi perché lì si aprono, aspetta, chiaro, perché si è fatta l'operazione, la falloplastica, e adesso vuole anche le tette, no? O adesso vuole anche, sì, vuole limarsi il pomo d'Adamo, e sa bene che se sei una persona transessuale che, diciamo, ha avuto dallo Stato pagato un certo pezzo del transito da uomo a donna, ma potuto, sì, mi dicono in chat potuto, non lo so, ok, va bene, però, come dire, da un certo punto di vista, no, i discorsi comunque, senza farla troppo lunga, sono due diversi, no? Non so che ne pensate. Forza, esprimetevi, siete più calorosi. Ma in effetti no, è un argomento particolarmente spinoso, interessante, che sicuramente apre delle riflessioni. Stai facendo il demagogo, vai. No, non è mia intenzione. Vai, Casini, vai, dillo. Ammetto anche un po' la mia ignoranza in materia, però... Infatti sì, ma per chi ci hai preso? Cioè noi siamo vabbè, due gente, siete tre menti sopra il club. Occhio, questo microfono fra un po' te lo stacco, come si dice. Fai trovare la posizione giusta. Va bene, allora vi lascio un attimo per pensarci, così no. Cambio questo microfono prima che il nostro caro amico qui ci sbrocca. E il brano chiaramente una scelta scontata, ovvia, ma splendido. E questo qui, e speriamo che non ci sia bisogno. Ah, vedi che si sente male, dice. Ai. Vabbè, c'è bisogno chiaramente di metterle, quindi un buon ascolto a tutte. Buon ascolto. A tutte e a tutti, vero? Io dimo tutte e tutti. Tutte e tutti. È un grazie a Tenera Valse che comunque ne approfondiremo fra un poco. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. E ci riproviamo, signore e signori, vero? Ci riproviamo, dai, con un nuovo microfono, con la tecnologia che ci aiuta. Perché la cosa strana è che poi quando abbassi il volume e nessuno è più in diretta, allora escono belle discussioni. Guarda, se mi tiri di nuovo il filo te è meno, guarda, alza sto piedino. Quando poi invece niente, riparte il microfono, il silenzio, vero? E quindi dicevamo, chiaramente il nostro caro Alejandro Blancos do Silva do Brasil do Nascimento, chiaramente sono io, ma io ci sono, mi sento. Avevi sì, non ci sei. No, tu ti chiami, a voglia se ti chiami. No, io effettivamente, come stava giustamente sottolineando Martis, una figura. Dai, Smartis, noi ti vogliamo bene, non ti preoccupare, che sono timidi, però mo la dico. Siamo molto timidi, ma poi perché ci troviamo in un luogo sacro. Capito. Digliela. Ah, chi sono William e Kate? Ciao William e Kate. Amo capito già, sì, io no, vabbè, dopo leggo. Vabbè, no, insomma, quello che sì, effettivamente faceva bene a sottolineare Martis è anche il fatto che questa, come si chiama, Tenera Valse? Tenera Valse, sì. Questa donna, questa puttana che effettivamente bianca, cittadinanza italiana, molto colta, da quello che ho capito anche insegnante, quindi insomma un certo tipo di status, un certo tipo di esperienza, un certo tipo di vissuto. È chiaro anche sottolineare che non tutte le donne scelgono di fare questo mestiere. È vero anche che credo che Tenera Valse stia lì anche per riprendersi quei diritti, o comunque in qualche modo togliere dalla figura della puttana tutto quello che in questi anni gli è stato dato, e anche banalmente cercare di togliere questo stupido proibizionismo anche ipocrita che crea poi di fatto quella che può essere la tratta delle bianche, che crea tutte queste situazioni di non voglio essere anche un po' scontato e parlare dei controlli che ci possono essere nel momento in cui questa cosa può essere la prostituzione debba essere legalizzata, e quindi assolutamente, però è chiaro che nel momento in cui sarebbero anche un modo per tutelare esatto, e credo che appunto Tenera Valse su questo volesse portare una riflessione. E invece com'era quella storia del gioco di potere tra l'uomo, no, e la donna? qua si fanno allora, non ci sono tuttologi nel mondo, no, era quella la mia a parte chiaramente, magari come si chiama quello, la ciccione che sta a studiare aperto ogni tanto interviene, non so, non mi ricordo, però. Io non guardo. Come non guardi la televisione, figurati. Ah, pensate come gli sta, ma chi ho invitato? Sicuramente però lo seguo su Twitter. Comunque ci sono, no, non si chiamano tuttologi in televisione, come si chiamano? Opinionisti. Dico, ah, mia, sti cazzi. Comunque, insomma, com'era quella questione del potere, no? Un pochettino. Vai, ripeti. La questione nasce sempre dall'uomo. L'uomo esercitare questo tipo di sensazione. E lo fa soprattutto quando si tratta di donne non italiane, sfruttando lo status di clandestina, che come dicevo prima è un termine che mi fa cagare, però, e che è stato creato appunto purtroppo secondo la legge vigente è così. E il fatto di sfruttare questa condizione non è altro che un ricatto su un ricatto. Aspetta, muovi poco questo cavo, continua. È un ricatto su un ricatto, dicevo, nel senso che si sfrutta la condizione di clandestinità perché a causa di quella condizione la donna in questione non può ribellarsi, quindi oltre a essere... Non avere paura. Senti, tieni il microfono più vicino. Io sono abituato a un microfono panoramico. Ah, bella. Mazza, chi sei? Quindi com'era? Mi hai fatto perdere il filo per questa stronzata del microfono. Lo so, però dei microfoni vanno vicino la bocca. Ma è vicino. Più vicino? No, così va bene. Tienilo in questa posizione e va bene. Cosa dicevo? Sfruttando la condizione di clandestinità, esercita un ricatto ancora peggiore sulla donna. E quindi è sempre questo gioco di potere tra l'uomo che dispone di determinate armi, che sono armi che l'uomo stesso ha creato, e la donna che non ha alcuno strumento di difesa in determinati casi. Ebbene sì. E quindi nel caso in cui la domanda è quindi è... Opla, aspettate un attimo, è partito un file, chiaramente quello di prima, però non vi facciamo riascoltare. Quindi nel caso in cui si dovesse, diciamo, ci si dovesse trovare davanti alla possibilità di legalizzare la prostituzione, che cosa ne pensereste? Perché questa è una domanda. Guarda, io l'ho detto prima. Favorevole o contrario, favorevole. Sì, ma molto seccamente, senza giri di parole, insomma. Oh. Contro ogni proibizionismo, 3 metri sopra il clero. Ah, è partito lo spottino. Sì, sì. No, perché la domanda in realtà arriverà, è una domanda a trabocchetto, quindi fa a favore della legalizzazione della prostituzione. E adesso vi faccio sentire un altro... aspettate, mo la ritrovo perché chiaramente mi è scappato il dito. Dove sta? Mannaggia la miseria. Eccola qua. E adesso allora riascoltiamo un altro simpatico brano di quell'autore, è un cantautore italiano, che ha scritto questo brano qualche giorno fa, e quindi, no, in realtà l'ha fatto intorno a ottobre, però diciamo è un grande poeta, quindi adesso ce lo riascoltiamo e poi parliamo di della legalizzazione della prostituzione e di quali possono essere gli aspetti invece controversi di legalizzare la prostituzione. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao amore, come va? Senti, due cose. La prima, mi hai mandato quel messaggio di avete bisogno di, no? Sì. E allora tu domani sei già andata da cosa? Da... No amore, perché io te l'ho detto, senza il tuo permesso non faccio niente, capito? Mm. No, ma tu sei già andata una volta da Spinelli? Sì, sì, io sono andata perché è attaccato a casa mia, sai, perché io ti chiamo d'accordo, sempre magari. D'accordo, vabbè. Allora perché... tu vai domani mattina da Spinelli. Ok, perché dobbiamo prendere quel conto lì che ti avevo detto per la musica e la canzone. D'accordo, canzone. Va bene. Allora vai da così Spinelli. Così magari l'avvi se lui sa quanto mi dà. Vai che ti da Spinelli ti dà 5, perché non possiamo dare di più in contanti. Sì. Poi una seconda volta ti diamo, va bene? E intanto noi facciamo così, compriamo le va cose, bene. Perché domani d'accordo. Viene Stadian. Amore, un'altra cosa che volevo dirti, sì. Come stai? Sì, sto meglio, grazie. Hai visto, è uscito sui giornali, fatto brutto, quotidiano, sì. Lì. Adesso sì. Io vado a prenderlo all'edicola. Sì. Senti una cosa, scusa, ma ti hanno telefonato dei giornalisti? I giornalisti ieri mi hanno chiamato tutto il giorno. E tu? Perché volevano sapere, io ho detto guarda, io non ho niente da dichiarare, niente da dire, e per favore non voglio essere disturbata. Mi raccomando, non fare nessuna dichiarazione. Ma va, non, amore. Perché qualunque dichiarazione è contro di noi. No, ma infatti io, a parte che non so niente da dirle, nessuno, a meno che non sia l'avvocato, non va bene, d'accordo. Ciao tesoro. Grazie mille amore, Vince Spinelli. Grazie, ciao. Amore. Ciao, buona ciao. Giornata amore, ciao. Ciao. I'm sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you, oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Quindi ritorniamo, perché chiaramente, come prima, più di prima, ti amerò. A parte sono passate le 10 e dovevamo fare una cosa, però va bene. Si parlava di questa cosa qui, no? Cioè, legalizzare la prostituzione è sicuramente una buona idea, in generale. Ma andiamo a scendere poi in quello che è successo, dove la prostituzione è stata legalizzata, no? Perché il capitale insinua l'auto. Oh, ma questo c'è sta a fare domande sul serie per davvero? Ma non hai capito? Capito, ho invitato. Qua ci manca il terzo, perché è il terzo che risponde serio. Allora, chiaramente anche il terzo, non so, Marchetti è sottopagato, that's the question anche, non lo so. Saluti a Martes, a William e Kate, tutti quanti sono in chat, e vi ricordiamo che se siete all'ascolto e volete comunicare con noi potete venire su transizionedifase.org, dove siete già stati, chiaramente, per cliccare su ascolta. E lo so che siete tre monti sopra il clero, però c'è una domanda che... Tre minghioni sopra il clero, però c'è una domanda che bisogna farsi, no? Voglio dire, allora, la dinamica è la stessa dei corpi LGBT. E allora, in questo simpatico periodo, il capitalismo è in crisi, parliamone, no? La parola capitalismo è un delirio. E quindi che cosa fa? Cerca di trovare dei modi per uscire dalla crisi. Sicuramente... Chiaramente, fallisce di continuo. Chiaramente uno di questi modi è, come dire, la guerra, no? Armi, a posto, tanti soldi. E un altro è macinare i corpi delle persone. Adesso, tanto quanto è successo in tanti paesi LGBT del mondo, ecco, salutiamo William and Kate che dice che il capitalismo è vivo e lotta insieme a noi, probabilmente l'avrebbe detto ai microfoni, diciamocelo. L'avrebbe detto sicuramente. Sicuramente. Che cosa succede, no? Che il capitalismo macina i corpi oltre che i soldi, e quindi macina è il biscotto, esatto. Di una fantastica. Allora, che cosa succede? Che spesso e volentieri poi decide che i soldi dei froci e delle lelle gli piacciono, perché valgono la stessa moneta, e quindi istituisce la famiglia anche per i gay e per le lesbiche, di modo che facile mi piglio i tuoi soldi. Probabilmente questo potrebbe essere un altro aspetto, no, della legalizzazione della prostituzione, no? Ecco, ma tu fammi qua. Capire, stai parlando... Legalizzare la prostituzione in Olanda, ad esempio, no? Che cosa... cosa è successo in Olanda? È successo questo Gabriele. Oh, è che ho ho bevuto 3 bicchieri di vino, quindi adesso sto iniziando a diventare un professionale. Mamma mia. E che è successo in Olanda? Dimmelo un po'. Che ne pensi di quello che è successo in Olanda? Che ne penso? No, più che altro diciamo agli ascoltatori e alle radioascoltatori e alle radioascoltatrici che la Juventus sta vincendo. Sì, vero? Con un gol di Cassano. Famosissimo attaccante del Parma. No, che succede? Che se io espongo il tuo corpo in vetrina, così, alla mercé dei Pipparoli, innanzitutto, voglio dire, no? È già di per sé. Non va, o chitti bene la vetrina. Ecco, oppure non va bene. Dopodiché si crea una lotta di prezzo, no? Sì. La concorrenza, che cosa sul fa? Corpo. Inizia a far calare i prezzi anche di chi vende se stesso, vende il corpo, in un paese dove la prostituzione è legalizzata. Regime di libera concorrenza in un libero mercato, capitalismo puro, proprio estremo. E quindi? Legalizziamo la prostituzione o non la legalizziamo la prostituzione? E quindi che facciamo? Calmieriamo i prezzi? Che facciamo? Statalizziamo tutto. Certo, le mignotte di Stato però sarebbero una bella cosa. E già ci stanno a quanto pare. No, no. E già mi pare che ce ne abbiamo pieno il Parlamento, no? O no? Sempre comunque rivalutando quello che vuol dire puttana e mignotta, eh? Assolutamente, con tutto quello che... E quindi già siamo al secondo punto di domanda, cioè... Fa un complimento a Sant'Anchè. Chiaramente, il secondo punto di domanda è, ok, questa situazione che vediamo sui giornali tutti i giorni parla sostanzialmente di persone che si prostituiscono, no? Vabbè, fino a qui. Va bene, si prostituiscono in maniera illegale in un paese in cui la prostituzione è illegale e in cui il capo dello Stato ne fa uso a flotte, diciamo. Non però... il capo dello Stato, ti devo... Oh, scusatemi, il capo del governo, l'ex capo del governo. L'ex capo del governo, sì. E quindi succede, no? Che succedono un po' di cosette, che ne pensate? Cioè, come si fa? Abbiamo già tirato fuori 2 punti assurdi. Il primo... e autodeterminazione se te la puoi permettere, no? E se c'è un sistema per cui te la puoi permettere, appunto. Chiaramente. E il secondo è legalizzazione della prostituzione. Sì, però se poi devi svendere il tuo corpo per riuscire a far concorrenza, come si fa? Allora, qui stiamo mettendo in discussione veramente tutto. Ma proprio tutto. Ebbene, sì, io domani volevo costituirmi. Pensavo di avere svoltato. Volevi costituirti. Costituirmi, sì. E allora, cari e care ascoltatrici e ascoltatori, ci ascoltiamo un altro pezzetto di questo. Lo so, è un po' greve questa puntata di Salute e Felicità, però. Però è giusto che voi sentite quello che abbiamo sentito noi. Ma Polacchi, ecco, è la cugina di quello di Casa Pound. Certamente. Proprio lei. Con una N di più. Forse la tartaruga tatuata. Che io poi credevo che Mary Stell, perché noi stiamo sentendo una. Mary Stell. Un'intercettazione che vede protagonista Mary Stell e Nicole Minetti. Pensavo che fosse un nomignolo per Maria Stella. No, si chiama quella dei neutrini. No, e invece quella è anche un'altra grande però però quella fa danni. Tutti sti complimenti all'ex governo, ma perché? Mamma mia, davvero. Però, come dire, è successo e quindi diciamocelo. Eccolo qua. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ah no, no, no, aspettate un attimo, devo fare un'altra cosetta però prima, sempre smanettamenti vari. Ma sei pignolo sto. Lo so che sono pignolo, però va bene. Eccola qua. Amo. Amo. Ehi. Mi stanno chiamando i giornalisti, cazzo. Cosa ti hanno detto? Dei rubi parlandomi. Io l'ho detto, guarda, io non so niente. Mi hanno detto, vogliamo parlare di persona. Io, guarda, niente, amo, io non c'è cazzo. Ma che giornalisti erano? No, non mi ha detto niente. Mi ha detto il nome, che non mi ricordo. C'è il numero di telefono qua, un 02. Allora io mi sento un po' così, nervosa quando mi chiamano. Ma cosa ti hanno detto che fanno loro? No, mi hanno detto, ma lei conosce Ruby, è una sua amica, l'ha conosciuta. Io, guarda, io non ti posso dire niente di niente, non pensavo che mi chiamassi per un'intervista dei giornali normale, non ti so dire niente, non ti posso dire niente, gli ho detto. E continuava a insistere, due mi hanno chiamato. Amo, ma veramente? Sì. Divento nervosa quando mi dicono questo al telefono. No, mo lascia perdere, fregatene. Fottitene.

Allora, il collegamento è questo: se sei una donna per bene, sei una mamma di famiglia; se sei una donna per male, sei una puttana, secondo la logica, no? Fuori da questo studio radiofonico. Manca proprio il collegamento comunque tra puttana e madre. Cioè, si parte dal presupposto che una puttana non può essere madre, e se lo è sicuramente una pessima madre. Chiaramente, certamente. Io invece posso dire mia madre è stata un'ottima madre. Momento di gelo, tipo, scusa. No, comunque, opla, eccolo qua. E allora, quindi se sei... brutto? Ti tirano le pietre. O fai la puttana o fai la mamma di famiglia. E se fai la mamma di famiglia, cosa succede? Leggerei questa notizia. La leggo tutta? Se vuoi puoi leggerla tutta. Ma sì. Però se non vi avvicinate al microfono io ve meno. Enna. Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato a Enna. Fai la voce più sexy però. Eh no, sexy su questa notizia ma non me la so sentita. Non è la voce, non è la notizia. Al momento è affitto il riservo degli inquirenti, ma sembra si tratti del corpo di Vanessa Scialfa, 20 anni, scomparsa nel primo pomeriggio del 24 aprile scorso. Questo è il 26 aprile, mi sa che l'hanno anche trovato, non so. Non anche quella dopo, del femminicidio. Allora, lo leggo io. Però avvicinati al microfono, se no te meno. Mi avvicino. Con 203 voti a favore, nessun contrario e una astensione, è stato approvato ieri dalla Camera dei Deputati argentina un disegno di legge che inserisce il femminicidio nel codice penale. Il progetto è il risultato dell'unificazione di 13 iniziative separate su questo tema. Il disegno di legge approvato andrebbe a modificare le sanzioni 1 e 4 dell'articolo 80 del codice penale e stabilisce come fattore aggravante il legame sentimentale tra l'assassino e la vittima. Sarà da definire il periodo di reclusione o l'ergastolo per coloro che uccidono un ascendente, discendente, coniuge o persona con la quale egli sostiene, ha mantenuto o approvato senza successo ad iniziare una relazione. E Andrea avanti. Stanno avanti in Argentina. Sì, voglia. Anche perché utilizzano il carcere. Ma parleremo anche del carcere dopo. Ma leggeremo anche quest'ultima notizia. Violenza sessuale e minacce. Tre anni però, a un carabiniere. Però caro Gabbo, tocca leggere i titoli. Quello pensavo che fosse evocativo anche il primo capoverso. Sì, sì, tanta L va così. Quello ineretto in alto, grosso, è il titolo, caro. Italiano, carabiniere, condannato per violenza sessuale niente e minacce. Niente italiani, niente prostituzione, niente armi, solo niente italiani. Droga, esseri italiani. Vai. Questo che io dicevo, quelli qua dietro. Quello di Casa Pau. Di Casa Pau. Fare un quadrato. Violenza sessuale e minacce, tre anni a un carabiniere. Il carabiniere oggi è a Codroipo. Fermo un attimo, Codroipo è l'anagramma di Porco Dio. Io vorrei dirvelo, è bellissimo da vedere così. C'è un paese questo, no? Io complimenti per l'occhio comunque. Ma io l'ho sempre detto, gli italiani sono uniti dalla bestemmia. Comunque, sì, è chiaro. No, ma è... Caduta l'accusa di ingiurie. Querela presentata tardi, interdetto per 5 anni dai pubblici uffici. La difesa, faremo appello. Violenza sessuale, carabinieri, processo. Oddio, queste erano tag. Comunque. Vabbè, continui. Codroipo. Codroipo. Violenza sessuale, ingiuria e minaccia aggravata. Per queste ipotesi di reato, un carabiniere, già in servizio a Cordovado e ora a Codroipo, è stato condannato a 3 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, credo. Assolto invece per un altro episodio di minaccia, mentre una seconda accusa di ingiuria è caduta per tardività della querela. Nella querela. Il biscardi prescritto. In realtà, anche se volete, questo. Cioè, vi stiamo leggendo tutte queste notizie non solo per annoiarvi, ma per, come dire, pubblicizzarlo. Questa è la cosa bella. Chiaro. Chiaro che c'è un fondo lì. Quello che è un fantastico blog che si chiama bollettino-di-guerra.noblogs.org, che è un blog dove tante persone, diciamo il sottotitolo è cronaca quotidiana di violenze maschile su donne e bambini, dove chi lo scrive ci aggiorna quasi purtroppo appunto quotidianamente di quella che è la violenza sulle donne, che viene perpetrata ogni giorno e poche se ne sanno, cioè poche finiscono sui giornali, appunto sulle donne. Siamo al cancelletto 54, quindi è la 54esima notizia che viene data e siamo al 26 di aprile. Questo quindi... da quando ha aperto il blog? Yeah. Dal primo gennaio. Dal primo gennaio è la 54esima che sia venuta. Ah, dal primo gennaio. Sì, 54esima notizia. In realtà noi l'altra volta leggemmo qualche mese fa un'altra notizia che parlava appunto di numerose donne, numerose trans vittime di violenza, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi come si fa? Come si fa? O sei una puttana e ti pigli gli insulti e la galera, oppure sei una madre di famiglia. E comunque ti può capitare di prendersi insulti e botte. E botte. Diciamocela questa cosa. Sì, questo dà la misura di quanto in realtà, come diceva prima, come si chiamava? Tenera Valse. Tenera Valse, yes. Il luogo, il contesto più violento in questo momento della nostra società è proprio la famiglia. Ti dà, queste notizie che abbiamo detto danno la misura di quanto la violenza sia diffusissima, sia all'ordine del giorno. La prima notizia che abbiamo letto, che riguarda Vanessa Scialfa, è una notizia che peraltro è stata anche trattata da vari media in maniera scandalosa. Cronaca nera, secondo loro. Ma a parte cronaca nera, proprio utilizzando una terminologia veramente asettica, il Corriere l'ha definita quasi una ragazzata, una fesseria, cioè proprio una di quelle cose da vergognarsi del lavoro che si fa. Poi purtroppo la stampa è pullula di pennivendoli, quindi non aspettiamoci troppo, soprattutto in Italia. Bene, io ci darei la parola a Gabriele. No? Ci dirà la sua. Ho buttato la pasta, raga. Ho calata la pasta. Il sugo è quello con... No, quanto a quello che è successo in Argentina, cioè l'inserimento nel codice penale del femminicidio. Noi in Italia in queste cose siamo sempre... Ma noi veniamo troppo, anche troppo da indietro. Un codice penale che aveva il reato di... Delitto d'onore. Delitto d'onore. Del 67, pensate. Pensate voi. Capisci proprio... la lotta che la lotta politica che si fa... Mm-hmm. Da anni, anzi, che è stato abrogato il elettorale, sì, è stato abrogato peraltro, anzi, per iniziativa del PC dell'epoca, quindi stiamo parlando che era il partito dei conservatori italiani, esatto, chiaramente conservatori italiani. Il PC. No, la questione, appunto, come dice la nostra cara Martis che ci ascolta sempre in radio, è che nella casa del mulino si nasconde l'assassino, perché poi c'è poco da fare, no? Se sei donna, come ti temetti in questo paese? Sicuramente tre uomini non sono le persone più giuste per dirlo, però forse sì, ce la potremmo fare un giorno. Però se sei donna, al momento dove temetti, probabilmente te dice male, te no? Chiaramente, sì, chiaramente. Te la rischi. E quindi molto. L'assassino ha le chiavi di casa, ci diceva Martis. Grande Gianni, tu madre, ce la ricordiamo. Vi ricordiamo che potete venire su transizionedifase.org, entrare in chat e dialogare con noi. Quindi abbiamo smontato un po' l'idea della prostituzione, abbiamo smontato un po' l'idea della madre di famiglia. Adesso è arrivato il vostro momento di smontare il conduttore. No, di salute e felicità. Di smontare voi e di farvi. Vi faccio una domanda. Attenzione. Anzi, prima metto un bravo. Certo, infatti, questa è la domanda. È finalmente la domanda alla quale potete rispondere anche dicendo delle stupidaggini. Però prima un brano, appunto, che sei in tono a quello che era la canzone, al tema di prima. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ci piace. Times that I watched them we ce l'hanno chiesta. Allora questa è una dedica, un buon ascolto a tutte e a tutti. Grande Dori di... fregarmene di tutte le buone maniere, voglio impastare la mia polvere con la polvere del sole. Io mamma voglio fregarmene di tutte le buone ragioni, sto camminando sopra una regina su cui tra poco salire il fiume, su cui tra poco salire al fiume. Eppure non tengo paura, no, non tengo paura. Fool, I'm gonna go to the var yolun etsin usta bulut aşkın yolsun. Bana fırını bu da fazla uğramam dumanlaş. Öpürüz iş bulursan sonrasında adama. Doğaç bulma uzunla barış mata fırtasın. Yana bucura basıyor gibi scusatemi, ho sfumato molto amabilmente, diciamo, davvero DJ, ed è arrivata la domanda che volevo fare ai nostri cari invitati, il domandone, perché no? realtà Frodo è sadico, c'è invitato qui. Certo, ho detto adesso ce li ho. Vabbè, ho capito, voi canzonate sempre durante le trasmissioni, però secondo me... Ma te vedi se la prossima volta viene lui da noi, sì. Che gli combiniamo. Ecco, fatemi un bel culo. E, salutiamo... chiaramente Martis, ci teniamo a sottolineare il fatto che non dicevamo che tutte le prostitute sono bianche italiane, ma per l'appunto che il contributo di Tenera Valse è un sacco interessante, vale chiaramente per la sua esperienza, che comunque è di donna bianca, e quindi è stato fatto. Lo so, lo so, basta, ci dice, quindi sentiti in colpa, no, sentiti in colpa, infatti, per l'appunto. E quindi mentre parte il brano che il brano in sottofondo, vi faccio la domanda. Questo è il brano in sottofondo. Oddio, che bella sta canzone. Ritorno proprio all'infanzia. Martin, vedete, solo per la città. Forse voi penserete dove girando va. Solo, senza una meta. Solo, ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada. La domanda, cari ascoltatori, è: dopo aver affrontato l'esperienza di una prostituta e averla anche individuata, diciamo, no, un poco, e dopo aver affrontato quella che è l'esperienza di una donna, no, avendone parlato in parte, diciamo, relativamente a quella che è la violenza sulle donne, no, che perpetrano i maschi, no? Ma più che affrontato, quindi ne abbiamo parlato, perché io sì, effettivamente non saprei proprio. In Canada, con vasche e pescioline, tanti fiori di lilla. Che cos'è un uomo? Domandona, che cos'è un uomo? Ma io devo partire da me stesso o fa un giro che raccoglie, dico, anche il già, perché dico, sappiamo che cos'è una, che cosa definisce un uomo? Questa è una domanda infame. Caro mio, infatti la casetta in Canada, tutte quante leggende, perché l'uomo va dalla prostituta, l'uomo picchia la donna, ma abbiamo due esempi qui davanti di uomo. Che cos'è un uomo? Casa piccolina in Canada, con basket e sciolini. Non vado alla prostituta, non picchio la donna, mi faccio un sacco di pippe se vi può interessare, ma dai, self service si chiamano, in questa, sì, questa trasmissione le chiamiamo self-service. Onania unica via, ecco. Onanismo. Unico visbo. Unico visbo. Non c'è la rima, capito? E quindi che cos'è un uomo? Cioè, non... capito? Che cos'è un uomo? È il prodotto di una cultura. Bene, andiamo avanti. E se la, se, di una società. Se la società fa schifo al cazzo, l'uomo farà schifo al cazzo. Ok, ma non l'uomo, l'uomo genere umano. No, l'uomo, parlo di uomo, uomo maschio, uomo. Io parlo quello di maschio, genere, sì, genere umano. Sì, sì, parlo, ma la nostra è una società incredibilmente macista. È questo. E se la società fa schifo, di conseguenza il maschio farà schifo. Chiaro. Ma come si definisce? Generalmente, cioè, passeggiando per la strada, no? Uno dice, quello è un uomo. Che cosa definisce l'uomo? E parte anche l'altro brano, signore e signori. Vabbè, passeggiando per la strada io vedo. La la la la la la la la. Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che era vero. E la lo sono, lo sono. Scusatemi. Un coccodrillo a te. Volevi un gatto nero, nero, nero. Eccolo qua. Sono molto in difficoltà, no, più che altro serve un step successivo alla domanda stessa. In che senso? No. Cioè, questo era caratteristiche fisiche. Era il classico momento. È il classico momento che durante le interrogazioni in classe io faccio, professore, però mi faccia una domanda, perché così non so proprio che dire. Dico, no, uno a parte Sandrona che dice uomo è una tappa indietro nell'evoluzione, la domanda è, che detto da Sandrona comunque, che comunque infatti parliamone, vabbè, comunque hanno fischiato, ma William e Kate comunque si guarda la Lazio mentre ascolta, salute e felicità, e questo è un gran piacere. Tra l'altro ha appena postato la dizionario italiano, la definizione di uomo. Un elefante indiano con tutto il babacchino. Dico, sì, dimmi, ditemi a turno che cosa definisce un uomo. Cazzo, vedi, per strada, tutte e due, uno passeggia e dice, quello è un uomo. Mm? Che cosa te lo fa dire? Ci avete mai pensato? Ok, quali? Certo, poi magari sono tutti appunto dettagli che magari sono apparenze, quindi la tua conclusione può essere errata, però... Certamente. Vabbè, banalmente sono atteggiamenti, sono tratti somatici, sono... è una certa conformazione fisica, un certo tipo di abbigliamento, ma sono tutti stereotipi, cioè sono un stereotipo di ambulante vista così. Ma forse sarà per quello che a me mi capita più che altro di guardare donne. No, per me osservare soprattutto chi ha tratti più androgini rispetto a... Però vabbè, quello è che sei lesbica dentro, ma non te lo possiamo dire. Lalla. Capito? E quindi? Se l'uomo... è quell'essere che tendenzialmente ha da puzzare. Ecco, chiaramente. Se è l'uomo, come dire, quello che perpetra la violenza sulle donne, e se è l'uomo quello che va da una prostituta a richiedere... Quando questa donna, in realtà probabilmente anche quando questo uomo, però non ne abbiamo parlato, quindi non apriamo troppi argomenti. Che va da una prostituta... Voi siete due uomini, no? Io sono un terzo uomo. Che cos'è un uomo? Un'altra volta. Certo, non c'è stata una bella risposta. Ma no, hanno fatto schifo tutte quante. Ma anche Gianni e dai, però, su. Secondo chi? Secondo chi cosa? Secondo te. Sì. La seconda. Le 4 W. Who, when, what? Uomo c'ha membro, donna no. Vedi, sì, questa era. Questo c'eravamo. E quindi. Non vorrei cadere nella. E quindi, se l'uomo che non sappiamo definire chi è e cos'è, c'ha il potere, e la donna è quella che sappiamo definire perché a volte è vittima di violenza e altre volte si prostituisce, altre volte è madre di famiglia, anche non vittime di violenza, forse qui. Sul fatto che non sappiamo rispondere, non sappiamo definire il soggetto che detiene il potere nella nostra società. Io effettivamente non saprei definirlo dal punto di vista della cioè se chi ha il potere visiva. Non lo sai definire, no, è lì che il potere ti fotte. Assolutamente sì, non lo saprei, anche perché io in realtà forse non sono un uomo, non sono, ma sono un Barbara Streisand. E qua se c'era pronta la clipper, perfetto. Ma mo la troviamo, comunque continua. No, dico dal punto di vista visivo effettivamente non sarà che non mi sono mai fermato troppo alle apparenze, quindi in realtà non neanche me ci fermo troppo a guardare le particolarità che possono definire l'uomo e la donna. Quindi? Piuttosto. Quindi per me in realtà non ci sono grosse differenze, anzi. Ti stai arrampicando sugli no, specchi. No, sul serio. Forse ho capito il senso della domanda, nel senso che effettivamente non è tanto una differenza fisica che mi fa balzare all'occhio il sesso di una persona. Quanto cosa allora? Quanto in realtà effettivamente un modo di esistere, che appunto può essere il vestirsi, il tagliarsi i capelli, esatto. Ma approfondiamo. Però al di là di quello, però al di là di quello che è la parte più superficiale, non ci sono effettivamente delle diversità se non il modo di agire all'interno delle situazioni. Quindi è l'agito che definisce. No, beh, non parlerei proprio d'agito. C'è un agito maschio e un agito femmina? C'è la maschia e la muscolosa, questo non c'è dubbio. Ma c'è un agito maschio e un agito donna? Penso di sì. Soprattutto derivante da un'educazione di genere. E quindi, care tre menti sopra il clero, che siete invitate a questa salute e felicità non rubica tendenzialmente queer? Siamo solo due menti sopra il clero, è per questo che non riusciamo a fare una risposta decente. Vabbè, il terzo non avrebbe dato una risposta decente. Ma lo potete sentire durante tutte le trasmissioni in linea continua, senza soluzione di continuità, parlare al microfono. Se, ripeto, se chi ha il potere non lo sappiamo definire, è lì che casca l'asino, no? E se chi ha il potere, come il potere non viene... si sa... Ma capito perché ha il potere? Perché spesso, almeno io credo che... Se dall'uomo si genera la donna, ma tu non sai definire l'uomo, non saprai definire la donna. Se non, di riflesso... Perché dall'uomo si genera la donna? E non biblicamente, diciamo, in generale, no? Sai che però questa potrebbe essere anche una cosa positiva. No, chiaramente, biblicamente, sti cazzi, mica volevo fare il profeta. Nel 2012 però questa cosa potrebbe essere anche positiva, nel senso che il fatto di... riuscire, o di, meglio, di non riuscire a identificare il fatto che finalmente qualcuno entri in confusione di fronte a una domanda simile vuol dire che è stato problematizzato un minimo. Esatto. E quindi poche menti riescono sopra il clero, anche però. Mettere in discussione anche in termini sessuali, anche in termini sessuali, perché per me il maschio è quello che ha voglia di fare sesso con la donna, ok? Quando nel momento in cui noi viviamo una realtà per cui il maschio ha voglia di fare sesso con un uomo o con una donna o con un transgender e la donna ha voglia di fare sesso con una donna, con un uomo, cioè capisci che viene tutto un attimo rimesso nel caos della creazione. Oddio Dio, ma che gli è preso questo qua? Ma lui era quello, questa è colpa tua, è della tua domanda. Sì, no, poi sono timido, non parlo tanto. Hai capito? Poi cosa si arriva? È finito il vino, comunque annuncio a tutti, questa è una cosa tristissima. No, però adesso parte un brano e faremo rifornimento. No, e noi ci abbiamo il Valentine's, perché dopo le 23. Wow, stavo già proponendo di scendere a prendere della birra. E quindi ascoltatori, no, la birra c'è in frigo. Però ascoltatori e ascoltatrici, se siete uomini, siamo una trasmissione seria in uno studio serio, questo qui. Siamo noi quelli poco seri che non hanno portato niente. Vabbè, vabbè. E quindi cari a me, ascoltatrici e ascoltatori di Salute e Felicità, lo so che non cergiamo. Ah, vabbè, ho mon bocca qua, Doriana, non cergiamo a paladini di nessuna idea, però se un uomo non sa definire cos'è un uomo, evidentemente è un deficiente. Houston, abbiamo un problema, no? E quanto è bello sto problema, però. No, certamente, però attenzione, perché succede poi che comunque, scusa, io Gabbo vorrei sottolineare che abbiamo fatto la figura degli imbecilli, cioè. No! Mi sono ripreso in coda. Ricordiamocelo quando lo inviteremo poi alla nostra. No, invece vedi come ti conviene. Molte meno risposte scontate di quanto avremmo voluto sentire su Radio DJ. Vabbè. Che non si fa pubblicità. Non è un buon complimento. Scusa. Su Radio Onda Rossa chiediamo a Martis in chat. E questa qua è Martis ci sei in culo come chiaro con la sabbia. E quindi col sale grosso. E quindi arriva il momento di spingere un pochettino di musica e di prendere il Valentine's per quest'ultima mezz'ora di Salute e Felicità, dove si parla di uomini e di donne, di prostituzione e di soggetti identità LGBTQ. Che ce l'ha duro, ecco, su Radio Padana ti direbbero che è quello che ce l'ha duro. Ragazzi, io volevo dire che è una cosa, gentilmente, buon ascolto a tutte e a tutti. Della DJ ci vuole sempre, eh? che vi piaccia o meno la musica tuz tuz tuz tuz tuz, un paio di pezzi durante Salute e Felicità ci stanno sempre. No, non ti alzare. Riprovaci ancora. Io dopo. Riprovaci ancora. Vai, prego. No, io mi associo. Ecco. E tu invece? Una proposta per la prossima canzone. Che è già partita. Però la prossima ancora. Buon ascolto. Su questa riposta. T'ho messa. The sun is high. I'm going outside. Vampires are asleep. Witches are taking over. Pressure is high. Need to pump some iron or German steel. That's how I want to feel from now on. Scusatemi, in realtà vi volevo far ascoltare anche un'altra di queste simpatiche, perché poi a volte, no, quando diventi strumento del potere, e allora poi succedono delle belle cose, come la classe vessatrice, come quando come quando fuori piove, come quando ad esempio una persona gay si permette di parlare in questo modo. Allora capisci che effettivamente l'essere gay di per sé non è rivoluzionario, rivoluzionario come tanti e tante sostengono, tra le quali alcuni all'interno dell'organizzazione del Roma Pride 2012. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Signor Alfonso? Sì? Sono Ruby. Ah, buongiorno Ruby. Buongiorno. come, senti, ma qui è un macello. E lo so, lo sto notando, perché alla fine stanno rilasciando dichiarazioni, interviste che non ho messo proprio lì. Tu non hai rilasciato le interviste. Bisogna che i tuoi avvocati, come ho spiegato ad Andrea, l'ho chiamato il mio avvocato, gliel'ho già detto. Devono fare un comunicato ANSA, capisci? Gliel'ho già detto, il mio avvocato mi ha detto aspettiamo per vedere se si calma la situazione. Gli ho detto, ma che si calma? Che cosa? Cioè la situazione degenera sempre di più, per cui se tu veramente non hai rilasciato queste dichiarazioni, se tu veramente non hai parlato con i giornalisti. No, io non ho parlato con nessuno. E allora i tuoi avvocati devono immediatamente chiamare la l'ANSA e fare una smentita annunciando querele. Perché altrimenti poi ce l'hai di mezzo tu, capisci? Cioè, certo. Ora lo provo a chiamare di nuovo. Ma assolutamente. Sì, sì, ma che cosa invece devo fare io per... Adesso tu devi startene tranquilla, zitta e affidati ai tuoi avvocati, che è la cosa migliore. Ok. Tu mi raccomando, non rispondere, cioè evita di parlare, perché qualsiasi cosa tu al telefono dici, oggi c'è il sole, ti ritrovi sulle prime pagine di tutti i giornali, domani dicendo domani piove, capisci? Sì, quindi la cosa migliore è morditi la lingua e non rispondere al telefono e chiama gli avvocati. Io mi memorizzo il suo numero, se ho bisogno di un consiglio la chiamo. Consiglio, chiamami, ciao. Ok, grazie, ciao. Ciao. My motor, gonna go. va bene, le critiche, scusatemi, le critiche fioccano, come si dice? Fioccano, gioccano, ecco, yes. Le critiche fioccano in chat e c'è gente che se ne vuole andare da chi suona la cumbia. Prego, si avvicinino. Il motivo per il quale abbiamo continuato a mandare queste intercettazioni è A. Non c'avevamo un cazzo da dire. Chiaramente, diciamocelo chiaramente. B. Che c'ha anche senso, insomma, evidentemente se esistono è per farle sentire, perché magari qualcuno deve incominciare a farci due domande. C. Perché accostate al brano dell'essere puttana di Tenera Valse, che ha degli aspetti controversi, senza alcun dubbio, c'ha senso domandarsi che la persona che va criticata, l'ipocrisia vera deriva la persona di sesso maschile, non tanto da chi risiede, si vede nella persona di risiede, sesso maschile risiede ben più che nella persona di sesso sicché indi per cui perciò per quindi. Quindi, a proposito di lavoro, così come ci parlava Tenera Valse, vi volevamo dire che il primo maggio 2012, invece di andare a fare finta... No, qua c'è critica. Però lo diciamo, invece di andare a Piazza San Giovanni, comunque, il CSOA Forte Prenestino, a via Federico Del Pino... attenzione, si è sentito. Comunque organizza questa 29esima festa del non lavoro, nonché i 26 anni di occupazione, dove c'è, se andate su forteprenestino.net potete trovare tutto quanto il programma. Chiaramente c'è anche Giulia Nania, che è quella che ha cantato a Sanremo l'ultimo programma, però è una delle lady fest sacco in gamba, insomma, pare, anche se la canzone faceva abbastanza schifo. Comunque non voglio lavorare sfruttando, che era quello che diceva un po', no, anche la nostra simpatica sì. C'è una meravigliosa frase stampata sul manifesto. Chiaramente, che c'è un po' di... Che critiche abbia? Parliamo, no, a transizione di fase si può parlare di tutto, anche... Sì, ma io... Critiche... Non è il caso, insomma, di... Va bene, e quindi... Non voglio essere complice della distruzione del pianeta, dell'indiscriminato sciacallaggio delle sue risorse, della mattanza degli animali. Non voglio essere parte dei pochissimi che si arricchiscono alle spalle di tutti gli altri, scusate il deficit e lo spread, contribuendo all'asservimento dell'essere umano e degli altri terrestri alle leggi del mercato. Non voglio vivere da sfruttatore, tantomeno voglio sopravvivere da sfruttato, lavorando senza diritti, privato dei sogni e precario o precaria. Voglio immaginare, sperimentare, vivere altri modi di fare comunità e di lavorare, basati sull'eguaglianza e la condivisione, sul rispetto e la sostenibilità. E quindi... Scusate, no. Qua c'è critica che non viene fuori. A transizione di fase non si fa men che meno a salute e felicità. No, con tanto di rima. Sono alcuni... Ci sono degli aspetti... C'è qualcosa che mi perplime nel... Relativamente al parlare nel microfono, gentilmente parlare nel microfono. C'è qualcosa che mi perplime molto meglio nei metodi gestionali di alcuni centri sociali romani. Detto questo, mi fermo. Peraltro, non sono tu, giovane dalla pelle chiara e dal colorito giallognolo, ma hai altro da dire? Io sono ubriaco di Gregers. Ubriaco di Gregers? Quindi non ne parlerei. E quindi io volevo mettere questa canzone, però adesso non mi pare più il caso. Non la metto più. Che canzone volevi mettere? Volevo mettere questa. Ma no, perché? Perché non la metti? La metto? Siamo noi. Non so, ci avete tutte gli eroi di tutti i giorni, i disoccupati, i lavoratori a 4 euro l'ora, cazzo. Ecco, vero? Ya famo? C'è chi dice che questo sarebbe un bell'argomento. Io sono d'accordo, però... No, nel senso, potrebbe essere anche motivo di risentimento da parte di qualcuno. Vabbè, ma non ce l'hai fatto un cazzo. E neanche una figa. Per essere così, un po' più di qua, un po' più di là. Intanto mangiamo i Ross. Vabbè, può essere una buona idea. Discutiamo. Qua fanno sì con la testa. Nel senso. Ecco, e qui fanno sì con la testa, quindi un buon ascolto a tutte e a tutti. Like dolphins, like E visto che mi hanno detto che metto musica un po' troppo vecchia, ma mi è presa anni 70-80, vado ancora 10 di meno. Buon ascolto a tutte e a tutti e un bacetto a Martis. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. E questo cambiamo genere perché ci danno ancora di più delle vecchie. Volevo mettere la Fitzgerald, però la dedichiamo, vero? Il nano calabro la dedica al nano romano. E quell'altro? Io. Era un'altra stanza, non vi ho seguito, mi dispiace. Di cosa stavate a parlare, belli di casa? Che la stavamo dedicando alla terza mente sopra il clero, che è rimasta sotto a Roma. In realtà è vero. Ma da mo' che è rimasta sotto a Roma. E gli dedichiamo, la Roma è rimasta sotto col Napoli. Gli dedichiamo una canzone, ovviamente, in napoletano. Ah sì? Odio Napoli come Naccari, dicevano la curva e la regina, ma lasciamo stare. Mangia, no, non lo sapevo, mi dispiace. Ha preso belle pizze col Napoli. Mi dispiace. Il secondo tempo ci ha preso gli schiaffoni. Tosti. Vedi che ci sta più ascoltare, perché se noi non scrive più. Vabbè, vedi, sta a fare il vago. Sta a fare pippa, eh? No, allora, ecco, lo scecco nel suolo. Vedi che alla fine come abbiamo pareggiato. Hanno pareggiato 2-2, ma hanno preso certi schiaffi. Certi. E sono venuti a scortare. Vabbè, vedi, hai capito. Vabbè, niente. Vabbè, questo è Maroni, mica è colpa loro. E qui tutto ma questo Maroni, ancora c'è Maroni, magari incubo. Adesso il tifoso l'ha fatta lui, mica l'ho fatta io. Ma era finita la cosa. Cosa? La destra ancora era... no. Ah, quindi c'è ancora un altro. Sì. Ah, beh, la prossima stagione, quindi. Davvero? Finisce a destra. No, cambia nome, cambia forma. Tipo PDL, PD. No, cambia proprio forma. Cambia proprio forma. Diventa rettangolo. No, nel senso da quadrata. Ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per tipo il cosiddetto carnet che ti consente di vedere determinate partite senza essere tesserato, insomma cambia un po'. Non sarà più una carta prepagata, perché la tessera del tifoso prima era come un normalissimo poste, beh, insomma era una marchetta a diversi tipi, alle banche fondamentalmente, cose che adesso non è. Ah sì? Sì. Facevano notare che adesso vi esce la voce quando si parla di calcio, subito parla di ultras. A me il calcio mi fa cagare quando ecco, parla di ultras è un altro discorso, ma vi rimandiamo ai podcast di Tre Menti Sopra il Clero per sì, e l'ultimo l'abbiamo saltato purtroppo per deficit tecnico per la carbonara di cui parlavamo prima di cui sopra. Ma se non sbaglio avevamo un appuntamento da lanciare. di fine mese. Sì, domani devo andare da mamma. Ho una cena a spesa. L'ultimo weekend del mese di maggio avrà luogo a Roma la Ciemona. Che cos'è la Ciemona? Ecco. Ne vogliamo parlare? La Ciemona? No. Non ne vogliamo, non ne vogliamo. Sì, vabbè, non ne vogliamo. Vabbè. Non parliamo. Ne parliamo, vabbè. Ne parliamo, io ne vorrei parlare semplicemente per annoiarci tutti. Per romperci un po' i coglioni, perché vai. In questi giorni, in particolare ieri, si è sentito parlare tantissimo di questa cosa: salva i ciclisti. Che è una cagata pazzesca. Perché è una cagata pazzesca? Innanzitutto partiamo dal presupposto, e questo è un appello che è iniziato, che è partito dal Times, cioè proprio una cosa di un borghese vergognoso, ed è stato poi nel tempo, da quando è arrivato in Italia, è stato un appello che è stato accolto dai vari, anche Alemanno, gente del PD, dalla Curia di Roma, capito, tutte queste associazioni, tutte queste gente che... Però posso dirti che ha portato in piazza ciclisti. 50.000 persone. Ha portato in piazza sta cippa di cazzo. Io c'ero. Ok, veramente. Io c'ero. Mi ha fatto schifo, ma c'era, perché volevo vedere con i miei occhi. Ciao. 50.000 persone non le ha mai portate in piazza. Intanto, soprattutto 50.000 biciclette. Sorvoliamo sul fatto che fai una manifestazione per i ciclisti e la gente viene a piedi. Cioè, no, e non pedali, sì, stai fermo. C'è un presidio. Cioè, un presidio con le una cosa di uno stronzo assurdo. C'erano le ciclette, dicono. Si sono messi con le ciclette. No, quelli che non gli ama, c'è arrivata con la bici attaccata sul tetto del vai a salve ciclisti in macchina. Magari investi qualche pedone nel tragitto. E qualche ciclista. Stare fermo. C'è una cosa di una... Quindi insomma non erano 50.000, Repubblica ha gonfiato i numeri, perché ovviamente solo, doveva sottolineare. Hanno iniziato da lì a gonfiare, perché da lì dal palco dicevano siamo 40.000 di più. Ma in realtà, cioè, per la prima volta una testata giornalistica dice di più di quello che gli casa. Organizzatori ma oserei dire guarda qua. Per dire 50.000 ciclisti, io non so se voi siete mai stati a una Ciemona, però quando noi eravamo 10.000 era un casino. Eravamo un fottio di persone e di bici. 50.000 persone non occupano un terzo dei fori imperiali. Occupano tutta Piazza Venezia, tutti i fori imperiali e tutti i dintorni del Colosseo. Vabbè, mo. Sì, 50.000 persone. Dice al Colosseo ci arrivano. Beh, e cazzo, 50.000 persone in bici. Se poi stanno con la macchina e la bici sul tettuccio, ancora di più. Chiaramente. Invece occupavamo, perché c'ero anch'io, appena un terzo di tutta l'area dei fori imperiali, anche con alcuni buchi al centro. Variopinti, variopinti. Ed era pieno di... Dove c'era gente che pedalava in circolo. Vari camioncini. Per vedere che qualcuno c'era. C'erano anche un certo numero di camioncini con parabole, postazioni strali, varie. Strali. Sì, tipo eco radio, insomma. Perché quando ci sono brutte persone a promuovere queste iniziative, i vari media si lanciano a testa bassa. Quando invece questo quantunque, tipo di iniziative chi che sia, partono dal basso, cioè per esempio, in realtà che io conosco poco, le ciclofficine popolari. Io alzo a basso il volume quando ti fai autopubblicità, DJ. Per dire, no, le ciclofficine popolari, diceva. No, non si fa così. Quando invece, insomma, ci sono degli eventi come la Ciemona, insomma, i media un po' non ti si inculano di pezza. Chiaramente la Ciemona innanzitutto porta molte più persone in piazza, ma porta anche delle rivendicazioni molto molto differenti. Non ci dimentichiamo che salve ciclisti, una cosa come salva ciclisti, in Inghilterra ha prodotto delle piste ciclabili griffate Barclay è una banca fra le più infami, però quella che ha creato il bancomat, tra l'altro, vero? Sì, e anche quella che ha una serie di legami con Israele che fanno paura, per esempio, di cui ma chi non ce l'ha come Raiz, appunto, di cui Raiz di sopra ma Magretta, ma non ne parliamo, no. Però era la canzone di Magretta, sti cazzi di Raiz, dicevamo, esatto. Magari muore muore morto, soprattutto lui e Ferrara, che hanno firmato un appello assieme. Mamma, è questa una cosa che non si può essere pure se ma fa un appello con Ferrara, veramente proprio. Se lo firma Ferrara no, firma no, esatto. Ci sarà qualcosa di sbagliato. Ma dove eravamo? La Ciemona. Che questo l'ultimo weekend di questo meraviglioso mese entrante ci sarà maggio, la Ciemona, quindi. Di maggio, certo. Saranno tre giorni di ciclismo selvaggio per la città. con il venerdì la classica CM mensile, che è un che presidio, chiaramente... no, che è una pedalata per la città con questa massa critica di persone che diventa traffico. Che critica, perché critica. Questa massa? E critica nei confronti di un modello di sviluppo che ti rende schiavo del... Sì, no, ogni tanto gridano. Barbara Streisand. Stavano Era l'unico momento serio. Vabbè, parlavamo di questa critica. No, perché fuori dalla finestra stavano cantando Barbara Streisand, scusate. In bicicletta, per questo c'ha... Sì, sì, certo. Fuori dalla finestra dello studio di Piazza Vittorio, comunque... Comunque sarà bene. Se vedo un po' meglio di così. Dallo studio di Piazza Vittorio. Cioè. Roma, non vedo le mani! Quindi la Cimona. La Cimona critica questo modello di sviluppo che è schiavo del petrolio. Che palle, ma insomma ci andate al mare domenica? Sì. Con la macchina, tutti la bicicletta. Sì, si andrà. Che bella sta cosa. Che bella, un sacco. Non è stato fatto. Mi tocca fare una bicicletta. È stato fatto 2 anni fa, una figata pazzesca. Ma mi tocca fare la bicicletta per venire. Eh sì, camiseria. Ma prende il trenino. Ma non me la date voi? No. Sì, se la chiedi prima. Oh, quindi sbrigatevi a chiedere la bicicletta. Noi nelle officine popolari.org abbiamo anche la possibilità di dare in prezzo. Infatti numero uno. Qua abbiamo si battono i cinque, succedono cose strane. Prima tutti zitti, bianchi. No, ma non lo so. Noi delle ciclofici popolari, noi devi dare valore. Abbiamo la sicuramente noi delle ciclofici popolari. Una pedalata non conforme. No. Non confondiamo. Noil. Codroipo. Codroipo non si dice, per favore. Bicicletta nera è la vostra radio preferita. Certo. Radio bicicletta nera, ecco. Perché sono libertari, è chiaro, chiaramente. Certo. Ultimo weekend di maggio, cmona.org. C'è anche il sito cmona.org. Dai forte, dai tutti. Luca, questa è per te. Buon ascolto. Che poi non aspettavo la stanza. Clementine di Ferretto, Lana White. Campania Bastard, New School, Ross, Salerno, S.A., Z.O., Clementino, Ina Wai. Prato Masha Sveto, Mario So, ma manca il barrio, mo, Prato Mario So. Aspetta reta, fornesta, fin quando a pioggia, ma c'è se mamma ritassa la chance, ma l'ora ne concessa. Prato Masha Sveto, Mario So, ma manca il barrio, mo, Prato Mario So. O cassa d'aumento, o fuma che transita l'uomo, una cassa potente che transita il capo la gente. Prego per frate mio, camarone l'accompagno, con la giusta pipi, mo corriamo le semagne. C'è ancora mo cerca luce, che tu buca è una persiana, c'è ancora trovo fiducia, per una piglia che hanno a mano. Troppi frate in mezza amica, speranza e la fatica, quando ti uscita a mattina, pizza capito facile. Ogni giorno è tale quale, quando passerete cielo, ogni frate che non molla, il tuo futuro sta lì bene, ne è triste. Se alla fine meglio è nubo, vola in cielo, sono bianco e cimite, la vita ne è come un vangelo. Nata mamma, camo chiaglio, per tuo figlio e zarrupiglia, preferito unire a morte, sta consolo di una re. Al bucro, al balcone, mamma piglia e sigarette, può piacere a chi non scende, perché è libertà ristretta, per chi ha vita la costretta, appunto fiere da bragasso, per chi ha vita nel deserto, chiude andate e chiude scala. Chiamo forte e nego croppo, ogni rimorso brucia un corpo. Tommo chiaglia e bagno volto, tutto resta gira storto e non mio vero. Caroppo che giova l'arcobaleno, solleva e bene e mette tutte cose a posto solo. La speranza è l'ultimo camore, ma spesso e prima che t'abbandono, mezzo grigio e sul stradone. Ma non sta l'amore, la celletta in te poesia, ma spesso è l'eresia, che fa male e poto ma la vuoi. Prato ma c'è freddo, Mario so, ma manca l'aria, mo, prato ma l'aria so. Aspetta reta, fornesta, fin quando a pioggia non c'è. Se mamma ritassa la chance, ma l'ho per me. Concentrato ma c'è servo, Mario so, ma manca l'aria, mo, prato ma l'aria so. O cassa d'aumento, fuma che transita l'uomo, una cassa potente, transita il capo la gente. Yeah, I'm white, Uncle Ant on the night, smoke the blunt, I drunk, salirne in Napoli, frate, ma vai mo. Ma che musica da scorti, Luca? L'unico sfogo fracassa è rullando con stress da passe chi caracullasse. C'è sta chi soffra a reta, si sbaglia. aumenten els carres, si espirra mantenen engan. Clementine, spacche patrin, cracche patrin, macarone e vin, macaro regime, poca la regina, poca candegina, tutta lira, fino a indecengibile, l'aria non si respira, e non stai più attivo, fino a che punto, stamma sicuro, cercami cura contro il tisa, vendure voto, pare che parlo con una mentalità vincente, con un microfono all'ucco per una città che non sente. Frate ma c'è sempre un mario sol, ma manca l'aria, mo, frate ma l'aria sol, aspetta rete a fornesto fin quando la pioggia non cesse, ma mi ritassa la chance, ma l'ora non concesse. Frate ma c'è sempre un mario sol, ma manca l'aria, mo, frate ma l'aria sol, guaggiù, o casse d'aumenti, o fumo che trasi in dall'uomo, una cassa potente che trasi in di capra a cento. Lentamente Sofades, sono Sofades. E quindi eravamo arrivati a che qua se parte la musica e si fanno le discussioni serie, poi finisce la musica, tocca intervenire e niente. Niente, al cazzeggio. Al cazzeggio. Allora, poi c'è critica in un chat dove effettivamente facevano presente che dopo la gemmona ci sarà la suvvona. Mamma mia, quante che cazzate. Che presenti parte. Tutti quelli che corsuva sgasano a brullo per sfondare il buco dell'azoto, ecco. A screzio di quelli che poi la settimana prima niente, si sono abbassati i livelli. No, Erika, vai con il CO2, vai con il CO2. Quindi parlavamo di questa cosa. Parlavamo di CMona, sì, la differenza fra CM e CMona, nessuna. La differenza è che però Gabbo ci è arrivato io chiedevo la differenza tra Critical Mass e CMona, qual è? Niente, semplicemente che la CMona deriva da CM, Critical Mass, appunto, l'italianizzazione della... Probabilmente l'unico in Italia a non aver colto questa sottigliezza. Ma guarda, è una cosa che ormai ci sto a fare i conti. Io capisco, sì. Adesso battute che mi facevano alle elementari, figurati. Ecco. E ne ridi tantissimo. E ne ridi tantissimo, sì. A buffo da solo. Sbagliato. Ecco che faceva prima. Grazie Giacomino. Esatto. Sì, dunque, vabbè, spieghiamo un attimino. La CMona è quell'evento. Quale evento? È un... Quell'evento? È quella coincidenza organizzata, così. Addirittura. Dei ciclisti, sì, che si ritrovano per diventare essi stessi traffico. E quindi mostrare, un atto fondamentalmente di disobbedienza civile, che anche con la bici ci si può muovere per la città, affrontando anche tragitti lunghi. Ho capito, ma si suda. Io per il lavoro come ci arrivo? Tutto sudato. Non è vero. Che faccio, porto il cambio? Non si suda. Si suda se fai la prologo Milano-Sanremo. A prologo? Fai a prologo Milano-Sanremo. Prologo e gara a cronometro, poi. Che mamma mia, signoranti. Mamma mia. Ma che te lo guardi mai? Non c'è ciclismo sulle tre, ti giuro. Palle, filino, ma neanche io lo guardo. Poi non succede niente, c'è quello da io manderei il biliardo, cioè il biliardo lo fanno alle 4 di notte, no? E invece perché fanno le tappe alle 3 del pomeriggio? Mandate il biliardo. Il biliardo è molto. Questo è un mio appello personale. Ma poi non succede niente durante la prologo e la gara. Comunque, insomma, andate al lavoro in bicicletta perché non si suda, se te fai in fisico... Non si suda, non si inquina, non sei schiavo del petrolio, hai la coscienza di per il petrolio che tu consumi nessuno è saltato su una mina, non c'è stato un bombardamento, nessun paese è stato invaso. Che non è una cosa da poco, insomma. No, infatti no, io ho la coscienza pulitissima, mentre dico che mi fate cagare. Ma io vado a piedi al lavoro, comunque, pago tanto da piedi. Io c'ho il motorino del meccanico. Però c'è il motorino. E non lo posso pagare. Io non è che pago acqua e zucchero, cioè, c'è la benzina. C'è sto prova. Anche perché non lo posso comunque prendere, Critical Mass sordi. CM c'è, cioè Carlo Mazzone, Carletto Mazzone il grande Carletto Mazzone. E com'era questa storia del tipo di Chris Carson, che è colui che si prego Chris Carson, che è un uomo simpaticissimo che io ho avuto il piacere di conoscere, di San Francisco, che è stato ho il primo il piacere di conoscere, no, è vero, pure io assolutamente vero. Lui viene sempre a Roma perché è l'unico luogo, come dicevo prima, la giro io che non c'è. dicevamo, è l'unico luogo se dove... sentite dei rumori, sì, si stanno girando una sigaretta, comunque c'è qualcuno che sta girando una sigaretta, sì. Ma a voi sto reality radio vi piace, quindi non ci facciamo problemi a casa. Dicevamo, l'Italia è l'unico luogo dove la CM si fa avvicinano al microfono la CM, no, il tabacco, il tabacco. La CM si fa mensilmente, mentre altrove si fa solo annualmente, come la nostra CMona. Infatti il main event sarebbe la CMona. Infatti siete delle pippe all'estero, ve lo possiamo dire. Chi siete? All'estero, no, erano un indirizzato all'estero. No, in Ungheria quando fanno la CMona sono pure 40.000. Una volta l'anno, pure io, cioè. Ma quindi la fanno pure a San Francisco, per dire. È nata a San Francisco, è il 92. Mamma, io comunque tra l'altro San Francisco che è il posto peggiore per i cinesi, cioè proprio, non so se qualcuno di voi ha mai visto anche solo in cartolina San Francisco, solo i locali gay nelle foto. L'Italia no, è tutta salita e discesa, cioè non c'è un cazzo di metro in piano, quindi come fai ad andarci in bici in quella, non si sa. Però eppure c'è, si è c'è nata la critica al mare, pensa tu, capito. E là ci sono collettivi di ciclisti veramente su YouTube. A settembre ci saranno ci stanno un sacco di video stupendi. A me mi è capitato di trovarne un paio, ma non so se pure a te. Sì, sì, vabbè, figurati. E ci chiedono sono... in chat chiedono anche sì, sì, stavo rispondendo già, avevo letto ma avevo già la risposta in testa. A settembre ci sarà si festeggeranno i 20 anni della Critical Mass a San Francisco. Cazzo, Gigi ha trovato la Sambuca. Vabbè, non dicevamo. È un po' da sbarionare, dice. A settembre ci sarà la ci saranno i 20 anni della Critical Mass a San Francisco. Sì. A parte le carovane che stanno partendo da ogni angolo del mondo in bici per arrivarci in tempo a settembre, tipo gente che è partita un mese fa da Bologna, per esempio. Davvero? Sì. Gente che io stimo tantissimo. Da qui a settembre. Anche gente non c'è un cazzo da fare la vita, l'ha detto. Sì, a settembre si sta organizzando. Cioè, ci si mette così da aprile sì, a settembre. Se ci vai con bicicletta, Oceano Atlantico, comunque. Beh, si è un bel pezzo di no, è che ma comunque devi passare da una parte all'altra gli Stati Uniti. Cioè, tu. Ah, ok, arrivi. Da una costa all'altra. Arrivi da qua e poi ti devi fare un certo bucio di culo. Esatto, sì. Peraltro io non so che tipo di percorso vogliono fare loro, però probabilmente il più lungo che c'è, visti i soggetti, probabilmente sì, sì, anche perché parliamo del livello di fricchettonesimo chiaro, elevato proprio al chiaro. Cubo. Sì, c'è la strada che va si può ci si può informare attraverso il sito delle ciclofficine popolari o punto attraverso it, non punto punto it, chiedo scusa, prima ho fatto uno svarione, punto it non punto org. Ci si può informare attraverso quel sito oppure attraverso il sito della CMona oppure partecipando alla CMona, sicuramente certo, sarà pieno di compagni e o compagne la vedrà non conforme. Oppure imboccare a casa il nostro compagno Giampiero. Giampiero Mughini. Sarà pieno di compagni e compagne che spammeranno un po' questo evento. Perché e anche amici stanno... e amiche, vero? E anche amici e amiche. Non so, magari pedalano anche non compagni e non compagne. Sì, sì, sì, cazzi. Partecipano comunque si stanno organizzando diversi charter da diverse parti d'Italia. Charter? Per andarci, sì, a Roma. Voli charter. Significa affittare un aereo, banalmente. Ah, sì? Sì. Ah. Ah, una cifra magari non accessibilissima a popolare, tutti, diciamo, insomma, solo 7.000 no, perché, euro. No, no, sono 600 euro più o meno. Ma ci puoi mettere la bici sopra, quindi. Cioè, chiaro, anche se bici. Andiamo con i pattini. sicuramente. Sì, comunque, intorno alle 600 euro è quello che si sta trovando più o meno adesso. Poi magari si attende un po', si cerca comunque qualcosa di più economico. Si stanno organizzando da Roma, da Bologna, da Milano. A Milano se ne occupa la ciclofficina Stecca degli Artigiani. Mentre a Roma? A Roma la rete delle ciclofficine popolari, wow. Punto it. Vedi. Alcuni compagni all'interno della rete. Sembrava che dicevi Calcutta. Calcutta, compagni. Bologna non lo so, però so che lo stanno facendo. Vabbè, forse a Catania anche un charter da Catania, vero? Pare che si raggiunga. Ma quindi charter vuol dire quello che t'affitti te? Io pensavo un volo charter per presidente. Credo sì, no che t'affitti, è un volo apposta per te. Ah sì? Sì, il charter è definito. Ok, sì, sì, tu arrivi là, sì, io voglio andare da qua a qua tot giorno, e lui ti dicono aspetti, affitto l'aereo, paga tot. se tu c'hai tot. Con la parentesi, Doriana ci ha preso. Scusate, ignoratemi. Sì, chiaramente, va bene. E allora, che dire, siamo già 18 minuti fuori dall'orario di chiusura di Salute e Felicità, però questa parentesi era particolarmente interessante. Vabbè, ma ci siamo noi, quindi continuiamo fino alle 3, 4 del mattino. Certamente. No, okay. No sì, c'è un volo charter. Vabbè, anche un volo charter. Posso scegliere io tra queste. Certo, però io c'ho già quella che metterò. Però comunque puoi scegliere. L'ho scelta anch'io. È quella, vabbè, che dico io. Io avrei messo The End dei Doors, ma giustamente. Certo. Eccola qui, buon ascolto a tutti e a tutte. Sì, sì, sì. Dai, Gabriele, scegliela. Eccola, te l'ho messa. Credence Clearwater Revival e qui si pomicia. And I'm just about già questa trasmissione ha una delle... Eccolo, è partito Hendrix in sottofondo. Questa trasmissione ha una delle playlist più assurde, però, specie quando poi arrivano gli ospiti, che devi fa? Gli fai mettere un paio di brani, e quindi la sigla questa volta la daremo a Gabbo. Sono le 23.55, quindi 25 minuti in ritardo rispetto alla chiusura. Mi pare arrivato il momento, no? Vogliamo dire altro? Sì, io sì. Sono venuto al meccanico, mi sono sognato stanotte un sacco di cose interessanti. Vai. Possiamo tipo? Aprire... Tipo? Non mi ricordo, perché io arrivo dalla sera, poi tutte le volte mi scordo. Però... È il Valentine's. È il Valentine's. La censura freudiana. La censura freudiana. Il nostro simpatico amico. Vogliamo ricordare i giorni di apertura della Giulia. Vicino popolare Don Quixote. Sì, ad esempio, ricordiamo gli orari di apertura. Lunedì e giovedì dalle 5 alle 9. Ma piuttosto vogliamo ricordare il giorno in cui andate in onda per caso? Giovedì. Giovedì. Giovedì sera. Dalle ore 22 alle ore boh. Di solito più o meno sono fin due quando ore, ci pare, fondamentalmente. Sì, fino a quando il coinquilino, diciamo, non sbrocca. Esatto. E sbrocca poco di solito. Sì, rado. Sì, sì, sì. Tranquillone, ci sta. Oh yes, e quindi salutiamo anche William and Kate che ha fatto pipa stasera e si è dato. E allora le foibe! Ecco, fai pipa, eh! Ce l'avevo, mannaggia, vabbè, l'avevo trovata. Gli mettiamo un'altra di queste, no, va bene, basta, accanniamo, se no le ammorbamo. Vi invitiamo a seguire Cancelletto Film nel pallone su fantastico social network di Twitter. Hashtag, perché ne... devi modernizzarti, non Cancelletto. Cancelletto, hashtag film nel pallone. Tipo Harry ti presento Scully. No! Forrest Bergkamp, dai, questo è complicato. Era mio Pedro. Tre miccoli porcellini. Tutti pazzini per Mary. Tutti pazzini per Messi. Pep Messi, Pep Guardiola. Il Marchisio del Grillo, eccetera, eccetera. Rocky Balbo. La Torres di Londra. Mi manda Turone. Vabbè, ce ne sono il milito ignoto, vabbè, certe cazzate da morire. E quindi va bene, questa che non mi ricordo più qual era la canzone, eccola qua, la scelta del nostro simpatico Gabbo. Quindi potete andarvene a dormire anche prima. Cioè, certamente. E quindi vi ringraziamo di aver ascoltato ancora una volta. Salute e felicità, non obbligate di essere queer, che questa volta ha parlato di tanti temi, tra i quali soprattutto la prostituzione e non solo. Vi invitiamo ad andare a dormire pensando a che cosa siete, se un uomo, che cos'è un uomo, se siete una donna, che cos'è una donna. E niente, ci sentiamo probabilmente giovedì prossimo alle 22, quando non sarò invitato a Trementi Sopra il Clero, perché si riunisce orgogliosamente LGBTQ, che ho subito la scusa per non venire, comunque, perché sai che troverà un'accoglienza pessima chiaramente a fine della trasmissione. Orgogliosamente orgogliosamente.noblogs.org è un gruppo di lelle, frosce, tranche e tutto quanto, lo scibile di autoascolto che si riunisce a Strike solitamente e che sta costruendo il Pride. È arrivato il momento di ascoltarci The Hollow, A Perfect Circle. Un buon ascolto a tutti e a tutti. Gliel'hanno fatta, non pensavo peggio. Circle. One.